Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Del tartufo sopra un tufo tutto bianco, ci sta un gufo molto stanco, ad essere franco anche un po' stufo. Un po' stufo di pomino, dalla sera al mattino sempre a far la sentinella, neanche un po' di pomicella. Poi all'alba quando smonta 100 pecore, lui contava a dormirci, prova il palo, fanno un gran baccano. Così inizia la protesta contro tutta la foresta, ogni notte una gran festa, c'è da perderci la testa. Così inizia la protesta contro tutta la foresta, ogni notte una gran festa, c'è da perderci la testa. Buffi sono quelli che sperano nella crisi del paese per danneggiare Renzi e il Partito Democratico. Questi sono i gufi. Il gufo, chi è il vero gufo? Oggi un post sul blog di Beppe Grillo accusa Renzi di essere lui il vero gufo. Era stato Renzi due giorni fa in un'intervista a dire tutti questi editoriali, questi commenti, professoroni che parlano di come vanno, non vanno le cose, sono dei gufi. Oggi però il Movimento 5 Stelle respinge l'accusa al mittente dicendo, a furia di parlare di crescita, di ripresa, che prima o poi ci arriviamo, che prima o poi ci siamo, eccetera, è Renzi ad avere gufato la ripresa. Oh, ma avete sentito anche dal giornale radio, mentre prosegue la votazione al Senato, per la riforma del Senato, oggi sono stati votati degli altri articoli importanti, tra poco ne parleremo, c'è anche il caos, l'ennesimo caos, per la pallina di carta tirata da un senatore del Movimento 5 Stelle, perché era proprio con quella che si coprivano le mani dei pianisti che votano per gli assenti. Ma sentiamo Petrocelli, che sempre il Movimento 5 Stelle, che dice: in queste condizioni, vecchia polemica, adesso il Senato non faccia nessuna vacanza, si va avanti a votare, a lavorare e a fare provvedimenti soprattutto per l'economia. Dopo l'intervento del presidente Romani deduciamo che Forza Italia è entrata ufficialmente in maggioranza. Visto e considerato il suo intervento, deduciamo che siete entrati in maggioranza. No, non è questo Petrocelli. Sentiamo Petrocelli quando dice: non dobbiamo andare in vacanza, se ce l'abbiamo redazione, se no andiamo avanti, mettiamo qualcos'altro. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Vabbè. Mettiamo allora Ciampolillo, l'abbiamo appena sentito anche al giornale radio, la polemica sulla pallina di carta, sentiamo un po'. Quando prima le ho mostrato questa pallina di carta della senatrice Repetti che votava in assenza, mi faccia finire, non mi interrompa, grazie. Questo non è ordine dei lavori. No, scusi. Questi sono problemi di Presidente, allora il senatore Aracri, mentre io protestavo, il senatore Aracri ha appallottolato una pallina di carta, ha fatto una pallina di carta e me l'ha lanciata contro. C'è un video che sta girando in rete. Io le chiedo pertanto, Presidente, di prendere provvedimenti contro il senatore Aracri. Questo è il rispetto che il senatore Aracri ha per le istituzioni. Dovrebbe stare senatore fuori Ciampolillo. Questa gente è una vergogna. Si vergogna. Senatore Ciampolillo, la presidenza ha visto tutto, ha visto anche che non l'ha colpito. Grazie Presidente e Banco della Presidenza. Chiedo, a norma dell'articolo 118,1, valutata inequivocabilmente l'irregolarità di tutte le votazioni finora fatte per la presenza di una pallina nella buca di un senatore di Forza Italia, chiedo l'annullamento di tutte le votazioni fin qui eseguite. Il fatto è gravissimo, però sarà deferito al Consiglio di Presidenza. Andiamo avanti. Insomma, avete capito quello che è successo? Un senatore del Movimento 5 Stelle ha visto questa pallina di carta che sarebbe servita in qualche modo a un senatore, non so esattamente chi, di Forza Italia, di votare, anche se era assente. Allora ha preso questa pallina di carta e mentre lui la prendeva, un altro senatore di Forza Italia, Aracri, gli ha tirato un'altra pallina di carta, poi lui stesso, Ciampolillo, ha tirato... Insomma, avete capito, un casotto. Adesso guarderanno le immagini, vedranno se c'è da annullare o meno qualche votazione. Ripeto, il Senato oggi ha votato diversi articoli della riforma del Senato stesso, tra cui anche le famose firme per il referendum. Allora c'è una doppia soglia, questa è una notizia abbastanza importante, 500.000 firme in questo caso. Il referendum, per essere valido, dovrà essere votato dal 50% più uno degli aventi diritto. 800.000 firme in questo caso basterà la maggioranza dei votanti a verrà, il referendum sarà automaticamente approvato in base alla maggioranza dei votanti. Quindi due soglie, anche il referendum propositivo ammesso, cosa che in Italia fino ad oggi non è mai esistita. Queste sono alcune delle cose: il tetto degli stipendi ai consiglieri regionali, che non dovrà superare lo stipendio del sindaco capoluogo di regione. Insomma, sono alcune delle cose che sono state votate oggi al Senato. Sentiamo però, riprendendo la polemica di inizio, quella del gufo, sentiamo il segretario della CGIL Camusso. No, non perché lei sia un gufo, ma perché commenta anche lei negativamente i dati sul PIL. Che era necessario rapidamente cambiare passo e che, come da tempo diciamo, se non si mette al centro il tema del lavoro, della sua difesa e della sua creazione, non c'è la possibilità di uscire da questo stato recessivo. Mettere il lavoro al centro, si dice, si sente dire, poi è difficile capire come, facendo che cosa, perché insomma investimenti pubblici non se ne possono fare perché c'è il patto di stabilità, investimenti privati se ne possono fare ma non si possono obbligare. Se si dice defiscalizzare per esempio i neoassunti, il sindacato è contrario. Insomma, mettere al centro il lavoro, ma come? Domanda che potremmo rivolgere proprio anche al segretario della CGIL Camusso. Sentiamo anche Salvini, che un paio di idee ce l'ha. In Francia l'asilo nido è pubblico e gratuito fino a 2 anni, se non mandi il bimbo al nido hai la babysitter pagata fino a 700 euro al mese. Quanto costa? Visto che ci dicevano, diteci quanto costa. 1.200.000.000 di euro. In Italia non nascono più bambini, non abbiamo 1.200.000.000 di euro per gli asili nido pubblici e gratuiti. Sì, ad esempio regolamentando e tassando la prostituzione. Se non ci fosse il patto di stabilità, noi, Italia, potremmo investire 2 miliardi di euro per mettere in sicurezza fiumi, torrenti, montagne, laghi. Però il patto di stabilità imposto da Bruxelles e attuato da Roma non ce lo permette. Se ci sono regole idiote che arrivano da Bruxelles, queste regole idiote vanno strappate. Stanno massacrando la nostra principale ricchezza, che è il Made in Italy, l'agricoltura, la pesca, l'artigianato. Dobbiamo andare a Bruxelles, farei questo se fossi al posto di Renzi perché conosco quell'ambiente, non chiedendo posso, dicendo io faccio. 800 24 00 24. E c'è anche la causa della Brebemi alla società Autostrade per questo cartello, avete sentito, posto all'ingresso dell'autostrada Brescia Ovest, nel quale si comparano i costi per fare 77 chilometri con la A4 si pagano 6 euro e 30 centesimi, per fare 92 chilometri sulla Brebemi si pagano il doppio, 12 euro. E c'è anche questo, insomma, cari ascoltatori, chiamateci se siete in viaggio, se avete utilizzato in queste settimane la Brebemi, un'autostrada, un'infrastruttura che secondo alcuni è costata molto e serve a poco ed è pressoché vuota. 800 24 00 24, torniamo tra poco. Diceva, qualcosa devi far, sei un baldo giovinotto ed hai le spalle forti, nei campi devi andare, la terra lavorare, 2 asini e 1 capra da spingere e da mungere, e 2 galline giovani una si sposerà. La sera mi ritiro dai campi di dolor, la schiena fuoco e fiamme, le gambe sono in panne, mi mangio il minestrone, mi bevo un bottiglione e poi mi appoggio al tavolo, scusate se mi appisolo, e sogno la fanciulla che domani sposerò. C'è il ragazzo di campagna. Buonasera Antonio Di Pietro. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Le piace come l'abbiamo introdotta? Le piace questa musichetta? Vabbè, facciamo, balliamo la tarantella ormai, questa è una cosa abruzzese qua. Vabbè, poi soprattutto dedicata così al ragazzo di campagna, ci piace pensarla anche così, insomma. Adesso lei dove si trova, in vacanza o è nella sua casa in campagna? No, sono in campagna certamente. Poi se si chiama vacanza o meno, in questo momento abbiamo finito oggi a raccogliere e a macinare un po' di erba secca, sì, perché ci prepariamo alla, come si dice, alla radura. Non lo so, è una bella vacanza di lavoro, ma voglio dire, lavorando una vacanza da lavoro, poi... però di lavoro, no, dal lavoro, no, al politico, ma di lavoro, il concetto è questo, che lavorando di braccia, sì, si libera la testa. E quindi si fa come si parole fa sante, parole sante. Si fa meno danni, si fa. Perché lei ha fatto dei danni in passato? Mi hanno fatto dei danni, altro che storia. Adesso è arrivata anche una richiesta di risarcimento danni, ne parliamo tra poco. Questa è una cosa incomprensibile che deriva da tanti anni fa. La cosa con Occhetto, la lista, eccetera. Senta, ma cosa fate? Raccogliete le olive, fate l'olio tra un po'? Cioè, qualche mese. Questo c'è tempo, è un po' c'è prima tempo. Prima dobbiamo adesso, al mese di agosto, cosa c'è si prepara la ratura. E si prepara i terreni per la futura coltivazione. Poi, ma perché avete la ratura, avete il grano, avete... Se sei un contadino te mena, perché non puoi fare arrustare, si dice noi, cioè no, puoi mettere sempre la stessa cosa, lo stesso terreno, specie quando ti trovi in terreni di montagna che sono più pietri. Devi fare la rotazione. Devi fare la rotazione, quindi poi specialmente chi come me c'ha anche qualche animale, come ha visto, qualche asinello, e qualche... La rotazione di Pietro che anche non poteva non aver l'asinello, tra l'altro. Vabbè, adesso questa è una cosa vecchia. La rotazione che anche diciamo scongiura anche OGM, pesticidi, tutto, perché serve anche a quello, no? Per evitare i parassiti. Io personalmente, siccome faccio questo lavoro per ricordo di mio padre, perché voglio, sì, specificare una cosa, per poter fare l'agricoltore oggi ci vuole o il coraggio o la pazzia, perché mio padre, con le stesse terreni che ho io, che ne dica la Gabanelli, ci ha fatto grandi tre figli. Io se non ce li metti i soldi non raccolgo, per capirsi. Detto questo, noi adesso a settembre, poi finite la ratura, poi provvederemo alla vendemmia, quindi alla raccolta dell'ulivo, e poi ci si avvia a quel che si fa sempre a Natale. Ammazza il maiale, mi scuso per i coloro che gli animalisti, però no, ma io rispetto molto gli animalisti, rispetto meno quelli che dicono che non bisogna toccare il maiale piuttosto che l'altro animale, però si mangia la fettina quando va al ristorante. Sì, questo è vero, questa contraddizione c'è, come no? E poi non solo, ma c'è anche contraddizione tra gli animali, perché ci sono animali su cui ci si lotta di più, e animali di cui non gliene frega niente a nessuno, poverini. Non si sa perché. La discriminazione tra gli animali. La storia tra l'animale, tra il maiale e l'asinello, no? L'asinello tira, lavora tutto il giorno, e il maiale la guardava dal recinto e gli diceva: come sei fesso, tu lavori, io qua dormo. E quindi ha detto: ma a Natale io mi prenderò un po' di freddo, ma tu ti riscalderai la faccia a qualcun altro. Finisce male. Senta, lo so che lei non può parlare bene del governo di Renzi per contratto, però a proposito di agricoltura, il ministro Martina vuol dare le terre in affitto ai giovani agricoltori bassi canoni, diciamo, a partire da settembre, con questa idea della banca della terra, le terre del demanio abbandonate. Questa è una cosa buona? Assolutamente sì, è buona. Io incentiverei molto il ritorno all'agricoltura biologica, soprattutto, cioè a quella per cui vale la pena poi mangiare. È quella dove c'è anche il margine economico, perché è molto in crescita, questo è vero. Forse ci si guadagna. Anche se però dobbiamo dire una cosa, sì, attenzione, fra quella biologica e quella parabiologica, che è un po' più paracula che biologica. Che vuol dire? Questo termine. Quelli che fanno, ma però ci sono delle certificazioni, no? Come funziona? Per l'amor di Dio, di certificazioni, io sai quando ne ho arrestati, gli fanno questi certificati. Ma lei fa l'olio biologico, tanto per dirne una? Ancora di più, io faccio l'olio come mamma l'ha fatto, cioè come arriva lì non gli metto niente, non gli faccio niente, anche perché, torno a ripetere, sì, fare l'olio oggi come oggi, senza assistenza statale, fare l'olio come ci mamma si l'ha fatto, tenga presente, quest'anno a me è costato 6,90 al chilo, e l'ho dovuto vendere a 3,95 al chilo. Ma a chi l'ha venduto, Di Pietro? L'ha venduto male? No, non è che l'ho venduto male. male, semplicemente che questi sono i prezzi dovuti al fatto che se lei va a una qualsiasi casella, autostrada lì dove ci stanno all'autogrill, c'è tutto sotto costo, troverà tutti gli oli a 4 euro. Anche io mi spiego come fanno a farli questi oli in questo modo, ma sono prodotti civetta, però te li tengono bassi per attirare la gente, in realtà ci rimettono, però poi guadagnano su altro, credo, non lo so, però questa ha ragione, è vero che se l'agricoltura, lo diciamo sempre, andrebbe, chi ci lavora andrebbe remunerato seriamente. Comunque vorrei dire a chi ci ascolta, sì, attenzione, che il contadino è scarpe larghe e cervello fino, cioè chi pensa che me ne sono andato a fare l'associazione combattente il reddito sbaglia, nel senso che tornerò purtroppo per chi non mi vuole. L'ha detto anche Bruno Vespa su Twitter quest'estate, a chi pensava che fosse fatto fuori dai palinsesti Rai, ha detto guardate che torno. Anche Bruno Vespa sa la differenza mia, che qualsiasi vento tira lui può, lui rimane sempre in piedi. Io invece sono sulla mia Concordia, Italia dei Valori, che o arrivo o affondo definitivamente. Senta, non scendo però, Noi potremmo andare avanti anche così a parlare, secondo me, per mezz'ora, credo, dell'agricoltura, delle sue idee su questo, è sempre interessante. Però il motivo vero è che lei ha firmato, è uno dei firmatari dell'appello lanciato dal Fatto Quotidiano contro la riforma del Senato, una svolta autoritaria, il Parlamento Zerbino, eccetera, eccetera. Perché lei ha firmato questa appello? Oddio, pensavo che mi dicessi che firmavo contro il modello pacchetto giustizia che si sta facendo, che è la stessa cosa. No, beh, c'è anche quello, parliamo anche di quello, però partiamo dal Senato, che è più di attualità. Ma capisci, vabbè, io parlo al suocero per cambiare l'ora. Allora, cominciamo da... Io personalmente, ci sono motivi di merito, con tutto il rispetto quello che fanno, per amore di Dio, ma ci sono motivi di merito e motivi di merito, te lo dico in dipietrese perché poi a quest'ora sennò la gente si butta in mezzo all'acqua. Il motivo di metodo e di principio è questo. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge con cui sono state elette queste persone. Sì. Queste persone, io credo che la prima cosa, prima di cambiare la Costituzione, che è proprio il pane della democrazia, della nostra democrazia post-guerra, bisogna che a farlo siano coloro che sono eletti con una legge elettorale costituzionale. Quindi l'idea di farlo adesso da questi non mi sta bene. Però secondo è un gatto che si morde la coda, Di Pier, perché così dobbiamo aspettare un'altra elezione, se ci sarà una legge elettorale. Scusa, poi vengo alla questione di merito, ma fammi capire, e non lo dico io, l'ha detto pure l'Economist, pensa un po' il contadino Di Pietro che parla dell'Economist, l'ha detto pure l'Economist ancora stamattina, ha detto, ma sono solo riforme di facciata, perché pane e riforma del Senato, non si mangia niente, oggi come oggi il nostro paese sta in recessione, c'è un PIL che sta andando, prodotto interno lordo che sta andando a ramengo, sta in una situazione di disperazione, tu tutti i giorni sei impegnato per sapere se devono essere eletti o non eletti al Parlamento, ma fai sul lavoro, ma fai sulla giustizia sociale, ma intervieni sul rilancio dell'economia, sulla piccola e media impresa, cioè c'hai 3.000 cose da fare, da riformare, vai a riformare i massimi sistemi che non produce niente, non dà niente, e che risultato manca. E perché secondo lei allora lo fanno? Perché lo fanno? Domani mattina, aspetta ancora, è la prima lettura al Senato, che deve andare alla seconda lettura, alla prima lettura alla Camera, dove deve aspettare alcuni mesi che deve ritornare alla seconda, cioè Renzi è già scaduto quando siamo ancora a discutere dei sistemi. Ma se vuoi fare figli, non è che puoi parlare soltanto, Cioè lei dice che questa riforma non arriverà in porto. No, ma se arriva in porto, voglio dire, al di là del merito, che io non condivido, perché che i senatori devono essere scelti dai consiglieri regionali o perché uno è diventato sindaco e quindi non è scelto dal popolo, che deve andare al Senato, non mi convince proprio. Io ti dico subito le due riforme che avrei fatto subito, se proprio lo volevo fare. Sulla questione del bicameralismo, o lo elimini o non lo elimini, se proprio dovevi risparmiare riducevi a metà i senatori, riducevi a metà i deputati e quindi hai risolto i problemi. Sull'immunità parlamentare, invece di lasciarlo pure al Senato, l'avrei tolto pure alla Camera. E per quanto riguarda la giustizia, c'è poco da fare, l'ha detto pure Caselli questa mattina. Sì. In Italia avete introdotto il sistema accusatorio, cioè che si fa nei processi, si fanno accuse e difese che hanno con gli stessi mezzi. Bene, allora come in tutti i paesi dove il sistema accusatorio c'è un solo grado, non due gradi, un solo grado di merito, che non si chiama più né primo grado né appello, un solo grado, e si decide e poi si va in Cassazione su motivi di legittimità. Questo penso che sarebbero d'accordo il 90% degli italiani, credo. Meno però il 90% di coloro che hanno a che fare con la giustizia, perché dice invece di 3 ne faccio 4 di gradi, così scatta la prescrizione. Un'altra riforma che io farei, direi questa: dopo il rinvio a giudizio, si va a giudizio di merito, perché a questo punto tu sai che se vuoi avere giustizia devi accorrere dal tuo giudice, non devi aspettare che scatta la prescrizione. Senta, però sulla questione che diciamo uno perché ok l'informatizzazione della giustizia, ha detto il ministro Orlando, ok accelerare i tempi, bisognerà vedere come, se ci riuscirà, ma su questo credo che nessuno possa essere seriamente, umanamente contrario. Sulla questione della responsabilità civile dei magistrati, questa soluzione indiretta, cioè che si mantiene il fatto che il cittadino non si rifà direttamente sul magistrato ma attraverso lo Stato, anche se con soglie di pagamento più alto pagheranno di più i magistrati, quindi una accelerazione ma non come forse qualcuno poteva temere anche dalle sue parti, questa cosa le piace o no? Guarda, è solo fumo negli occhi, perché tutti i magistrati sono assicurati, quindi non gli togli niente, solo in questo senso se pensa alla tasca. Io dico solo una cosa, a me non piacciono le correnti in magistratura, perché il magistrato risponde alla legge, non a questa e quella corrente, e l'ho sempre detto, a tal punto che a suo tempo all'ignoto e sconosciuto giovane magistrato di Pietro sono arrivato il plauso dell'allora Presidente della Repubblica Cossiga, quando hanno visto che ero l'unico che non era scioperato nella magistratura, quando hanno fatto sciopero, che i magistrati che scioperi non ci azzecca niente, sciopero il magistrato, può mai scioperare un padre di famiglia rispetto alla famiglia, che sciopero, non sciopero assolutamente, primo. Secondo luogo, per quanto riguarda la responsabilità dei magistrati, se sbagliano è giusto che pagano, però in questo momento il problema non è il magistrato che sbaglia, quello è giusto che paga, il problema in questo momento è che i processi sono troppo lunghi, la giustizia non arriva mai, e allora prima di oggi al ministro Orlando si parla di giustizia ma si parla di responsabilità dei magistrati, dimmi cosa vuoi fare per ridurre i tempi della giustizia, dimmi cosa vuoi fare per dare giustizia a chi lo chiede e dirmi che come va a finire con i delinquenti che vanno in prescrizione, ogni 3-4 anni devi mandare fuori dal carcere perché non ci sono più posti in carcere o perché le carceri sono fatte male. Facciamo le cose in modo tale che sappi che se uno delinque va in galera e sappi che se uno vuole giustizia, dopodiché se c'è qualche magistrato che non fa il suo dovere, è per l'amore di Dio, c'è il giornalista, c'è il macellaio che a volte ci ammazza la moglie col coltello invece di tagliare le piattine, c'è qualche magistrato che non fa il suo dovere ed è giusto che poi lui paghi. Non ho capito questa cosa del macellaio, comunque è lo stesso. È lo stesso, ma l'hai capito benissimo, Cioè, voglio dire, in ogni mestiere c'è qualcuno che abusa del suo, certo. A questo non fa il suo dovere nei confronti di queste persone, anche se sono magistrati. Ci sono già delle tutele, le dice. Senta, però, un'ultima cosa a questo punto, prima di salutarci. Giustizia sua personale, dicevamo questa richiesta di risarcimento di 2.700.000 per non una... a me, Italia dei Valori. Al partito. Lo dico che cosa è successo molto chiaro, perché ci sono già decine e decine di provvedimenti dal giudice che hanno dato torto e che lo reiterano il loro diritto, come un mio diritto a difendermi, il mio diritto, il diritto di Italia dei Valori difende nelle sedi più opportune, anzi saluto anche con amicizia e una stretta di mano a coloro che hanno fatto questo ennesimo atto giudiziario. Che è Occhetto, no? Occhetto, Chiesa, gli altri, cioè voglio dire, si tratta di una causa civile in cui si dice questo, nel 2004, stiamo parlando di 10 anni fa, abbiamo partecipato alle elezioni, loro dicono i rimborsi elettorali devono andare metà per uno dei due gruppi, noi invece diciamo i rimborsi elettorali vanno all'Italia dei Valori perché l'Italia dei Valori è quella che ha pagato le spese elettorali ed è quella che si è assunto il rischio che non raggiungevamo il quorum ed è quella che aveva diritto e solo titolo a ricevere i rimborsi elettorali. I giudici finora, ma per una decina di volte tra ordinanza e sentenza, c'è pure la sentenza di primo grado, ci hanno detto che abbiamo ragione noi e hanno torto loro, loro lo hanno fatto ricorso. Loro l'hanno reiterato e va bene questo. Adesso però è arrivata la sentenza perché le hanno chiesto. L'unica sentenza che è arrivata è quella che gli ha dato torto. Adesso è arrivato quel che si chiama tecnicamente decreto ingiuntivo. Certo. Ma il decreto cosa vuol dire? Che quando c'è un pezzo di carta, invece di iniziare con l'atto di citazione, chiedi col decreto. Con l'atto di citazione si fa la prima udienza fra qualche mese, con il decreto deve rispondere entro 40 giorni, ma non è successo niente. Vabbè, questa è una vicenda complessa, volevamo solo sentire anche su questo il suo punto di vista. Di cui colgo l'occasione per salutare i miei i amici che hanno partecipato con me e tutto sommato ci rivedremo in tribunale e vorrà dire 3 milioni di euro non sono pochi. Vabbè, grazie, comunque non era questo il punto dell'intervista di Pietro, ci sentiamo presto, buona serata, buona estate e buon tutto. Oui, dalla campagna. Dalla campagna e noi dalla città, arrivederci. Ciao, ciao. Borsa. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Intanto 800 24 00 24, adesso cominciamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori. Nella vicenda telenovela di Alitalia, che si annuncia andare verso la conclusione, lo ha detto anche il ministro Lupi, si firma, però è arrivato un avviso dell'Alitalia al garante degli scioperi, avvisando che ci potrebbero essere in vista proprio nel weekend nel quale ci sarà la firma dell'accordo, subito dopo, assenze di massa con certificati medici da parte del personale di terra che protesta per questo accordo, e quindi gli arabi capiranno subito in cosa si sono andati a infilare. Questa è solo una battuta, ma la notizia campeggia in prima pagina su tutti i siti adesso, la battuta poco fa Lanza. Cominciamo a sentire allora gli ascoltatori e andiamo con Vincenzo, che chiama dalla provincia di Chieti. Buonasera. Buonasera, ciao. Eccoci qua, Vincenzo, prego. Ma l'ha appena detto lei, no? Abbiamo parlato di gufi all'inizio della trasmissione. Il comportamento dei dipendenti dell'Italia in questo caso rappresentano in toto i gufi che in Italia in questo momento stanno facendo di tutto perché non vadano avanti le riforme, perché non vadano avanti gli accordi internazionali, perché l'economia alla fine faccia lo 0, lo meno 0,1, insomma. E questa è la questione di fondo. La Camusso che non è d'accordo con nulla, anche questa è un'altra cosa che non va bene. Cioè, a un certo punto bisogna che tutti ci rimbocchiamo le maniche e che tutti facciamo il dovere. Chiunque deve fare il proprio dovere anche nel suo piccolo per cercare di portare avanti la nazione. Beh, credo che di fronte a, per esempio a questioni come l'Italia, il 90% degli italiani ormai siano abbastanza convinti che ci sia un po' anche un atteggiamento, no, di non volere accettare niente, di non firmare a tutti i costi, di rifiutare qualunque accordo, qualunque sacrificio. Comunque, certo, perdere il posto di lavoro nessuno vorrebbe perdere il posto di lavoro, però se si tratta di fare dei sacrifici restando in un'azienda che viene rilanciata con un grosso investimento, a un certo punto non protesti più, secondo me, se non sapendo che c'è dietro il paracadute, un paracadute che alla fine ti viene sempre a salvare, quello dell'azienda pubblica, per esempio. Vincenzo, grazie, buona serata. Andiamo con Mariella, che ci chiama da Siracusa. Buonasera. Buonasera. Ma guarda, io mi riallaccio a quello che ha appena detto l'ascoltatore prima di me. Questo è un momento tragico, insomma, la gelata di ieri rispetto all'andamento dell'economia credo che dovrebbe indurre un po' tutti, appunto, a fare il proprio dovere, ma soprattutto avere il senso e il ruolo delle istituzioni. Io quando ho sentito la cronaca diretta dal Senato, mi sono vergognata, ma mi sono vergognata per questi nostri loro rappresentano tutti noi italiani. Questi sono atteggiamenti inaccettabili, non è possibile. Noi abbiamo problemi seri, importanti, stiamo cercando, sperando che si riformi la Costituzione, che si rivedano le regole del gioco, che si faccia di tutto quanto possibile per poter cambiare il verso, e questi atteggiamenti, palline di carta, bagarre per sembra la cronaca da una scuola, ma dell'infanzia, dove purtroppo devo dirle a questo punto il maestro Grasso non è in grado di tenere a bada gli alunni. Dico, questo è inaccettabile, un momento tragico come questo. Non se lo possiamo consentire. Grazie Mariella, grazie. Anzi, io invito a chiamarci qualcuno di questi dipendenti di Alitalia, personale di terra, che stanno ventilando questo sciopero. Non c'è bisogno neanche di dichiararsi, diciamo, nome e cognome, a chiamarci e raccontarci perché adesso spunta questo sciopero, quest'ultimo sciopero del personale di terra a Fiumicino in particolare. E tra l'altro occhio a chi deve prendere l'Alitalia nel weekend, e spiegarci perché c'è questa levata di scudi finale contro Etihad. Sarebbe bello sentire un intervento di qualcuno, tanto sono alcune migliaia di dipendenti dell'Italia, qualcuno che ci sta ascoltando sicuramente c'è e ci chiami per spiegarcelo, così siamo pronti a capire. Benito da Padova, buonasera. Buonasera, volevo intervenire in relazione a tutte queste manovre che stanno facendo sul lavoro. Secondo me il lavoro non è che uno lo crea modificandone le regole. Io credo che il lavoro vada creato modificando i prodotti, incentivando la ricerca, ciò che non stanno assolutamente facendo. Certo, inventando anche dei prodotti nuovi, delle cose che vadano bene sul mercato. Io non vedo che ci sia un qualcosa per cui richiamano menti dall'esterno. O dal mondo internazionale, non è che dicono vabbè facciamo in modo che dei buoni ricercatori rientrino in Italia oppure arrivino in Italia. Puntiamo sul nostro prodotto. Stanno semplicemente modificando le regole di ingaggio. Io credo che un lavoratore per un'azienda rappresenti un'opportunità, un affare. Ma l'affare lo fa se l'azienda ha qualcosa da fargli fare a questo benedetto lavoratore. Intanto che non si creano le condizioni per cui uno inventa qualcosa, ricrea qualcosa, anche puntando sul made in Italy, su quello che vogliamo, credo che tutto quello che stai facendo non serve assolutamente a niente. Poi è inutile che ci domandiamo perché c'è il crollo, il nostro PIL non aumenta. Cosa stanno facendo? Stanno semplicemente inventando regole. Ma tra l'altro lei ci chiama da Padova, a proposito di investire, oggi abbiamo letto una notizia dell'Università di Padova che sta mettendo a punto una cura, un vaccino, credo, contro l'Ebola, che preoccupa ovviamente moltissimo tutti nel mondo, ma diceva il ricercatore che sta curando questa ricerca che non ha trovato fondi in Veneto, è dovuto andare a Stoccolma a portare avanti questa ricerca. E, insomma, è proprio questo, guardi, diciamo, l'università, almeno per quanto ne so io, è stata molto inflazionata in questi ultimi anni, si sono inventati di tutto per creare diciamo nuove figure, ma non puntando sulla professionalità delle persone, puntando sulla quantità di chi esce dall'università. E poi quello che veramente riusciva a far qualcosa se lo sono lasciati scappare, tanto le aziende, perché piuttosto che spendere 500 euro in più al mese lo lasciano scappare, che lo Stato stesso. Va bene, Benito, grazie, grazie, buona serata. Andiamo con Puran, credo che ci chiama da Varese. Furan. Eccomi qua, buonasera. Buonasera. Camionista, ho chiamato per il discorso delle autostrade che fanno pubblicità uno con l'altro. La Brebemi contro la A4. Sì, perché l'ho vista anch'io l'altro giorno a Brescia. Sì. Però non è giusto perché se tutto il traffico del sud di Milano, Pavia, tutta la zona che arriva da Genova, quando fanno la Brebemi che finisce tutto, la TEM, la tangenziale esterna milanese, dopo tutti saltano giù là per andare a Brescia, è più veloce, che è comoda. No, scusi, non ho capito nulla. Il traffico che arriva dal sud, da Pavia, dalla parte sud di Milano, che cos'è che non va? Che dopo, quando ha finito la TEM, la tangenziale esterna di Milano, dopo va sulla Brebemi, arriva a Brescia più veloce, più bello. Va bene. Ma certo che va bene, una passata bellissima, nuova di zecca, nuova costruzione, Milano Venezia, tutte buche. Sì. Ti butti giù il telefono dalla cabina del camion e se il telefono. Ma è molto trafficata la Brebemi, lei la fa spesso? No, l'ho fatta solo una volta con la macchina, così perché stavo venendo là per gli affari miei, no? Così però è troppo bella. Va bene, ma qui la causa della Brebemi contro la A4 è per questo pannello, questo cartello che a Brescia compara le durate e i costi. Dice, quasi la stessa durata, la Brebemi costa il doppio e quindi adesso c'è una causa perché su questa questione della pubblicità. Però si paga pure la tangenziale a Milano una volta che è finita l'autostrada. Sì. Non è che Brebemi costa di più, hai capito? Okay. Ah, lei insomma il costo della tangenziale, ma di cosa? Scusi, perché in realtà lì il calcolo è fatto tra Brescia Ovest e Milano Est, quindi parità di chilometraggio. Sì, però forse c'è un euro che si paga da qualche parte per una bretellina. Va bene, può darsi. Grazie, Funan. Buona serata. Andiamo con Tiziano da Bergamo, tra l'altro. Sì, buonasera. Buonasera. Due cose. La prima è che mi sono iscritto al master alla Bocconi di management dirigenziale per grandi ditte, dove il relatore sarà Totò Riina in persona, visto che dopo aver avuto Schettino per la gestione dell'emergenza avremo Totò Riina di sicuro per la gestione delle grandi imprese. E in secondo luogo volevo avvisare che la cosa più assurda, oltre al raffronto del pedaggio, è che sulla tangenziale di Brescia, in teoria strada statale, quindi non solo a partecipazione autostrade, non c'è nemmeno il cartello per indicare dove si possa prendere la Brebemi. Questo l'aveva detto un turista tedesco o francese addirittura, che percorre per la prima volta il tratto tangenziale, che dal lago di Garda vuole andare a fare la spesa a Milano nelle grandi vie della. Ma io non ho capito se non hanno ancora finito tutti i lavori, per cui mancano ancora per gli autogrill. La faccio tutti i giorni. Mancano ancora le indicazioni. Mancano le indicazioni, che è la cosa importante. Sì, no, i lavori, non i lavori della strada, mi scusi, cioè i lavori annessi e connessi. Qualcuno ha detto che bisognava aspettare un po' di più e fare gli autogrill che non ci sono, i cartelli. No, non è vero, perché semplicemente se lei prende una strada statale che non è a gestione di autostrade, cioè la tangenziale di Brescia, la strada statale 671, se non ricordo male. Ah, non lo segnala per rappresaglia, va bene. Non lo segnala per prendere la Brebemi e come diceva il precedente, giustamente tagli fuori il grande traffico di Bergamo. Quindi non venite a sparare che non vengano a dirmi che è una cosa inutile. E comunque che autostrade ci spinge il culetto perché dice mi perdo una gran fetta di clienti. Va bene, Tiziano, grazie. Buona serata. 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra un attimo. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy, pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. There ain't nothing please me more than you. Oh, let me go home. Sono cose che non possono essere misurate con il PIL, con il prodotto lordo. Per esempio, la possibilità di comprare una casa a un euro, perché chiaramente non smuove il PIL. Però è proprio quello che invece promettono alcuni borghi antichi, la possibilità di trovare dimora presso questi antichi borghi a prezzo molto molto conveniente, addirittura un euro. Accade in alcuni piccoli paesi italiani che sono venuti in queste cronache estive alla ribalta. Noi abbiamo convocato il sindaco di Salemi in provincia di Trapani, Domenico Venuti, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, vabbè, voi siete una cittadina non tanto piccola, tra l'altro. Circa 11.000 abitanti. Beh, parliamo, sì, insomma, di un paesone o di una cittadina, insomma. Tra l'altro una cittadina territorio molto articolata, oltre al centro storico c'è molto altro, diciamo. Anche. Ma quante sono queste case in vendita a un euro? Guardi, la situazione di Salemi tra tutte è una di quelle particolari, perché questo, sì, qui siamo di fronte ad un dei lotti che il comune ha acquisito ma non ancora formalizzati molti, sì, per molti l'acquisizione, e in virtù del piano di trasferimento a seguito della ricostruzione post terremoto del 1968. Mi sono già perso, lei giustamente da sindaco parla un po' in burocratese, io mi sono già perso. No, dopo il terremoto del 68 c'è stato un piano di trasferimento a valle di alcuni lotti. Per e oggi che siamo nel 2014 che succede? E adesso che siamo nel 2014 il comune ha avviato si è fermata purtroppo per vari motivi. Io sono sindaco soltanto da 2 mesi, veniamo fuori da un commissariamento, la possibilità, utilizzando una norma esistente, la Bassanini bis, di cedere queste aree eventualmente a costo simbolico di un euro, però in cambio di una ricostruzione, quindi di una riqualificazione, perché è chiaro che molte di queste sono delle aree, alcuni sono dei ruderi, altri sono delle case con dei problemi strutturali, quindi certo sono da ristrutturare o da ricostruire. Nessuno venderebbe una casa in ottime condizioni vista mare a un euro. Infatti anche gli altri paesi, Gangi in provincia di Palermo, ma anche Carrega Ligure, per esempio Alessandria, che sono alcuni dei paesi che hanno fatto la stessa cosa, perché lo spirito che anima questa iniziativa è quello anche di ripopolare i borghi, le città, eccetera eccetera. Però mi dica un attimo, allora, la questione è più ampia, perché comunque c'è stato un piano di trasferimento molto ampio, molti cittadini sono stati trasferiti nella zona nuova. Queste case sono rimaste disabitate nel tempo, per cui... Ma mi faccia un esempio, sindaco, mi spieghi un attimo. Faccia la domanda, perché sennò... Allora, prendiamo una casa tipo di quelle di cui stiamo parlando. È una casa di che anno? Parliamo di case del 900, 800. Ah, quindi anche di dimore che hanno, diciamo, anche volendo un valore storico, ma insomma che sono anche un po' antiche, insomma, non di case moderne. Sì, parliamo alla Salemi, partiamo da lì, è proprio stiamo nel centro di Salemi, nel borgo. Sì, nel cuore proprio, nel borgo storico. Salemi ha un bellissimo castello arabo, normanno, un borgo che è ancora intatto proprio grazie a questo. È stato preservato da un punto di vista, diciamo, architettonico e urbanistico, ma va recuperato. Ecco, comunque, però in questo borgo, sindaco, dove ci sono queste case che voi, diciamo, mettete a disposizione a un euro, ci sono anche a fianco, vicino, case normali, negozi, situazioni di questo genere, o parliamo proprio tutto di un borgo completamente abbandonato? Ci spieghi anche lì la situazione è mista, ci sono dei borghi completamente abbandonati, sì, e ci sono invece delle case o dei lotti sparsi tra in borghi già abitati e quindi urbanizzati. Per questi sarebbe possibile, e avvieremo delle procedure magari prioritarie per poter attivare, diciamo, il tutto. Per quanto riguarda i borghi abbandonati, ci sono da risolvere anche le questioni dell'urbanizzazione, cioè, perché è chiaro che si tratta di interi quartieri. Però prendiamo la situazione abbandonati. La situazione più facile, cioè un borgo dove qualcuno ci vive, c'è, cioè, qualche negozio eccetera eccetera, e dove c'è qualcuno di questi lotti, qualcuno di queste case da prendere insomma a un euro. Si tratta di case pubbliche, se abbiamo capito bene, quindi è proprio il comune che le mette in vendita. Esattamente sì, perché sì, queste case sono acquisite o in fase di acquisizione ancora dopo tutto l'iter del terremoto al patrimonio del comune. Perfetto. Del comune. E in cambio cosa chiedete a chi si fa avanti per questo? In cambio c'è già un regolamento in tal senso, si chiede la ristrutturazione secondo i criteri poi previsti per le ristrutturazioni nei borghi, quindi con il rispetto di tutte le normative, le direttive della sovrintendenza e beni culturali, entro 2 anni comunque, quindi un periodo congruo affinché possa esservi la riqualificazione. E poi uno di questa casa deve farne residenza principale o può essere comunque, cioè chiedete di stabilire la residenza lì, quali sono le altre condizioni? Ma questo assolutamente, questo no. È una scelta, una libera scelta. Quindi uno può fare quello che gli pare, lo può ottenere da un certo punto di vista anche come casa di proprietà, anche come seconda casa. Sì. La proprietà, esattamente, sì. Sì. Per cui in cambio ovviamente dei costi di ristrutturazione che sono a carico del soggetto interessato. Adesso la domanda più difficile. Per non creare false, sì. La domanda più difficile, sindaco, quante richieste avete avuto? Ma in una prima fase, qualche anno fa, quando fu avviato questo processo, rimase soltanto mediatico, ci sono state migliaia di richieste all'inizio che poi sono via via diminuite nel tempo per il fatto che chiaramente si è capito che poi c'era in cambio da investire sulla ristrutturazione. Sì. Poi questo progetto è stato per anni accantonato nel cassetto, per cui ora da quest'estate, da che io sono sindaco, sono iniziato ad arrivare delle richieste. Io ho risposto che l'amministrazione intende riattivare il procedimento, ma partendo da lì da dove è stato interrotto, purtroppo a un livello quasi embrionale. Abbiamo il regolamento, ma abbiamo tanto lavoro ancora da fare. Questo è il troppe scartoffie, insomma, via. Sì, anche se una parte di quella più noiosa, sì, ecco, delle scartoffie è già stata affrontata. È chiaro che dobbiamo adesso passare alla fase attuativa, chiaramente quella poi che... Perché insomma è chiaro che questa sarebbe una... Sì, ce ne sono centinaia, sì, in questa fase... ne sono arrivate parecchie. Perché diciamo una cosa, no? A chi ci ascolta, che magari può essere un po' scettico perché sente che ci sono difficoltà burocratiche, che ci sono da... No, non difficoltà. Mi faccia dire, sindaco, stia tranquillo, mi faccia dire una cosa, che ci sono difficoltà burocratiche, lentezze, che siamo nella fase embrionale, che c'è un costo da parte di chi si candida per avere queste case, che deve affrontare il costo della ristrutturazione. Però questo è una cosa che bisogna incentivare, bisogna fare, perché di edilizie abbandonate, di case abbandonate, anche nei borghi, nei paesi bellissimi, ce ne sono tante, troppe. Recuperarle anziché continuare a costruire magari casermoni, poi ognuno sceglie se andare a vivere in una casa vecchia o in una casa nuova, è ovvio, però sappiamo che anche la nuova edilizia spesso poi rimane, ci sono delle statistiche, rimangono quasi il 50% degli appartamenti invenduti, vuoti eccetera. Allora che senso ha? Ha più senso forse provare anche a farlo questo recupero, però bisogna lavorarci, sindaco, mi raccomando. Parole sante, e noi investiremo proprio in questo senso e vogliamo investire anche eventualmente con chi è disponibile, visto che abbiamo gli spazi per acquisire interi comparti, magari poter sviluppare albergo diffuso, il centro storico di Salemi si presta, cioè, quindi ci sono molte potenzialità. Mi faccia un momento proloquo di Salemi, uno spot per invogliare qualcuno. Siete vicini, l'aeroporto più vicino quanto dista, il mare quanto dista? Allora, noi siamo a 30 chilometri dal mare di tutta la provincia di Trapani, a 80 chilometri da Palermo e 70 dall'aeroporto, quindi 65 dall'aeroporto di Palermo, e a 30 chilometri da quello di Birgi, quindi nel giro di 40 minuti. È una meravigliosa cittadina con un centro storico stupendo, clima mite, siamo in collina ma comunque vicinissimi al mare, e c'è a due passi dalle bellezze che la provincia di Trapani offre, delle altre bellezze, perché siamo proprio nel cuore della provincia, quindi facilmente raggiungibile con svincolo autostradale, insomma penso che ci siano tutte le potenzialità per investire in questa iniziativa, e quindi noi le scartoffie le ridurremo al minimo, mi raccomando, per cercare di dateci dentro per offrire al più presto la nostra meravigliosa cittadina a chiunque voglia venirci a trovare, magari venire anche a risiedere, certo. Grazie sindaco, se l'è cavata, momento proloquo, a 40 minuti avete sentito, avete l'aeroporto e il mare. Buona serata, in bocca al lupo a Salemi. Grazie a voi, una buona serata a tutti. 800 24 00 24, ancora un ascoltatore prima del giornale radio, direi ci sta. Antonio dalla provincia di Gorizia, buonasera. Non c'è, allora andiamo con Giovanni da Pordenone. C'è Antonio? Sì. Eccolo. Sono qua. Buonasera, buonasera, bentrovati. Eccoci. Giusto per dirvi che questo nostro nuovo governo, con questo nuovo Job Act, come lo chiamano loro, ci hanno, nelle aziende del mio settore, io sono un appaltatore, lavoro in cantieri. Sì. Facciamo le navi da crociera e abbiamo un lavoro mediamente che dura tutto l'anno per 15-20 persone. Cioè lei ha un'azienda e prendere gli appalti da Fincantieri per dei lavori? Sì, sì, come tutti, sì. Fincantieri esternalizza la maggior parte dei suoi lavori. Sì. Allora noi abbiamo un problema che durante l'anno noi lavoriamo mediamente con una forza lavoro di 20-25 persone, però abbiamo l'urgenza, come sta capitando adesso, quando la nave deve essere consegnata, di aumentare drasticamente il personale, portarlo a 30-35 persone. Con la nuova legge noi possiamo prendere solo il 20% del totale del personale a tempo indeterminato e fargli un contratto a termine. Ciò significa che io in pianta stabile ho 20-25 persone, ne posso assumere ancora 4-5. Tirarla a inizio anno eravamo circa 28, quindi a tirarla massimo 6. Il resto del personale verrà da ditte straniere, verrà dalla Bosnia, dalla Croazia. Cioè la ratio della norma è per incentivare il lavoro stabile, però... Sì, ma non si può, noi in Fincantieri non possiamo stabilizzare 40 persone, perché non ce l'abbiamo il lavoro costante per 40 persone, ce l'abbiamo per 20, come me sono la maggior parte degli appaltatori. Però in compenso si consente di reiterare più volte i contratti a termine, ecco, questo sì. Eccolo là, è un'assurdità. No, è però questo è positivo, no, per lei, cioè il fatto di poter reiterare questi contratti a termine, o no? Sì, ma non mi danno la possibilità di farlo il contratto a termine. Va bene, troppo pochi. Grazie, dobbiamo fermarci, c'è il giornale radio, torniamo tra poco. Del tartufo sopra un tufo tutto bianco, ci sta un gufo molto stanco, ad essere franco anche un po' stufo. Un po' stufo, rovino dalla sera al mattino, sempre a farla sentinella nel tuo po' di pellicella. Gufi sono quelli che sperano nella crisi del paese per danneggiare Renzi e il Partito Democratico. Questi sono i gufi. Chi è il vero gufo? Il vero gufo replica oggi il Movimento 5 Stelle, e questa era la replica di Faraone a Grillo, è Renzi che a furia di parlare di crescita, di ripresa del PIL, che le cose vanno bene, è lui che ha gufato la ripresa. Era stato Renzi 2 o 3 giorni fa a dire che era stufo di questi commenti dei professoroni, insomma degli editorialisti che parlavano che le cose non vanno, eccetera eccetera. Poi è arrivato il dato sul PIL, le cose non vanno come previsto dal governo, e allora che Renzi se ne faccia una ragione. Questo è il concetto espresso anche per esempio dall'onorevole del Movimento 5 Stelle Di Battista, che dice Renzi come Berlusconi che vedeva tutti i ristoranti aperti, ricordate? Sembra Berlusconi quando rispondeva che i ristoranti erano pieni, la stessa identica cosa, non voler minimamente vedere in faccia la realtà, perché vedere in faccia la realtà significa dover prendere determinate misure che il Partito Democratico non può prendere, cioè significa tagliare certe spese militari, significa tagliare gli F-35 e trovare lì i soldi, significa smettere di abbonare le tasse alle concessionarie del gioco d'azzardo, che sono le stesse che finanziano le fondazioni, che finanziano il Partito Democratico. spalle del tartufo, sopra un tufo tutto bianco, ci sta un gufo molto stanco, ad essere franco anche un po' stufo. Secondo me Letta è stato, era l'uomo più credibile del Partito Democratico, io l'ho sempre pensato. Questo non significa che non lo vogliamo mandare a casa come esponente di un partito che ha fallito e oggi si vede perfettamente con i dati Istat. Ciò nonostante aveva una credibilità che per me Renzi non ha e soprattutto ci metteva la faccia. Renzi non ce la mette mai, non si vede mai in Parlamento. È sempre più difficile fare la cronaca di quello che accade in Senato in questi giorni. Allora, cercando di ricostruire, il senatore Ciampollino ha visto che c'era una pallina di carta che teneva premuto il pulsante di un senatore di Forza Italia. Ha denunciato questa cosa qua, la classica cosa dei pianisti con una nuova tecnica, quella appunto della pallina di carta, sembra di essere a scuola. E un senatore di Forza Italia, Aracri, a quel punto ha preso un foglio, l'ha pallottolato e gliel'ha tirato contro. E allora Ciampollino poi se l'è presa con il senatore Aracri, ha chiesto a Grasso di intervenire, bagarre in aula. Grasso forse non aveva capito cos'era successo, i 5 Stelle hanno alzato il tono della polemica, alla fine Grasso cosa fa? Ha espulso uno del Movimento 5 Stelle, questo è quello che ho capito io, sentiamo. Grazie Presidente e Banco della Presidenza. Chiedo, a norma dell'articolo 118,1, valutata inequivocabilmente l'irregolarità di tutte le votazioni finora fatte per la presenza di una pallina nella buca di un senatore di Forza Italia, chiedo l'annullamento di tutte le votazioni fin qui eseguite. Il fatto è gravissimo, però sarà deferito al Consiglio di Presidenza. Andiamo avanti. E poi Ciampollino dice: voglio vedere il video, mi fa vedere il video della seduta per dimostrare che ho ragione io, che c'era la pallina di carta. Sentiamo se abbiamo anche questo passaggio qua in cui Ciampollino litiga con Grasso per la questione del video. Vediamo, sentiamo se abbiamo. Presidente, posso avere il video? Grazie. Quando parlo è possibile avere il video? No, l'audio c'è, il video, se lei tiene il tastino premuto io non ho il video, grazie Presidente, gentilissimo. Allora, e me l'ha riacceso, grazie. Scusi, lei parla per avere il video, no? Presidente, non faccia questi giochini, per favore, noi abbiamo diritto... E va bene, questo è quello che si è riusciti a ricostruire di quello che è accaduto a Bagara anche oggi in Senato. Si va a votare avanti fino a domani, dichiarazioni finali eccetera eccetera. Oggi sono stati votati anche alcuni articoli anche abbastanza importanti della riforma del Senato, il tetto allo stipendio dei consiglieri regionali, le soglie per la raccolta di firme del referendum, una doppia soglia 500.000-800.000. E poi anche la possibilità di fare il referendum propositivo nell'ordinamento italiano. Fino ad oggi il referendum era solo abrogativo. Sentiamo anche una Lega, va Centinaio. Io ricordo anche la violenza che è stata utilizzata nei confronti del regolamento, violenza utilizzata da giorni per far passare questo processo di revisione costituzionale, in modo che il Presidente Renzi possa finalmente andare in vacanza tranquillo sotto l'ombrellone e poter dire al vicino d'ombrellone: almeno una cosa l'ho fatta. Fronte all'Italia, notizie dell'ultima ora: nonostante la fumata bianca annunciata dal ministro Lupi, proseguono le proteste del personale di terra di Fiumicino, che in queste ore i dipendenti all'Italia starebbero mandando certificati medici per la giornata di domani, quindi a rischio poi tutto il weekend, sempre in segno di protesta, insomma, uno sciopero bianco lo ha definito Lupi, uno sciopero infingardo, perché si nasconde dietro il certificato medico. Meglio fare sciopero allora, no? Ma quello probabilmente non si può in questo momento per via delle norme che regolano gli scioperi dei servizi. Quindi tutto a rischio il traffico su Fiumicino nel weekend. Lupi che dice: non tollereremo altri scioperi bianchi. Abbiamo chiuso la prima parte del programma con un ascoltatore che lamentava la nuova normativa del ministro Poletti sui contratti a termine, se ne possono fare troppo pochi, noi che siamo appaltatori di una grande azienda, diceva questo ascoltatore, la Fincantieri in particolare, così non ci troviamo più, e poi si dice la crisi. Sentiamo su questo tema invece il segretario della CGIL, Susanna Camusso, oggi. Noi abbiamo ricorso alla Commissione Europea sui contratti a termine, perché la direttiva europea innanzitutto dice che la forma prevalente di assunzione deve essere quella a tempo indeterminato, e poi propone delle regole sui contratti a tempo determinato che sono a nostro avviso violate dalla legge, dalla cosiddetta legge Poletti, perché ci sono la possibilità di reiterare numerose volte le conferme, perché diventa forma prevalente di assunzione, e quindi pensiamo che sia giusto non rispettare solo le regole europee quando coincidono con i voleri, ma verificarlo anche sul piano del lavoro. Fare love non si può stare, oh baby. Beach on the beach, femmine e woman e vanno a cash, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. Il nostro inviato sotto l'ombrellone di oggi è un'architetta di 24 anni di Parma e si chiama Viola Fabi. Buongiorno, buonasera Viola. Buonasera. Allora, un inviato sotto l'ombrellone un po' particolare, perché insomma noi in questo spazio cerchiamo un po' di tutto da tutte le parti. Adesso Viola, dove sei? A Parma o in vacanza? Adesso sono a Parma, sì. Sei a Parma. Invece di andare in vacanza come fanno tutti, quest'estate hai passato quanti giorni a Berceto a lavorare alla ristrutturazione di una fornace? Gratis, anzi pagando per farlo. Adesso poi ci spiegherai tutto. Ma abbiamo passato un'intera settimana dal lunedì al venerdì, sì. Ero io con un altro gruppo, eravamo quasi 70 studenti, abbiamo deciso di metterci al lavoro, metterci al lavoro, di metterci alla prova per, insomma, per dimostrare la nostra voglia di fare per un progetto di cui veramente, insomma, vale la pena. Ecco, intanto diciamo, io adesso per esempio vado così, descrivo la foto che c'è sui giornali che hanno portato quest'estate, che è molto bella, c'è tutto un gruppo di giovani architetti, ingegneri, tutti col caschetto giallo sotto un'impalcatura, e siete all'interno della ex fornace Marchino di Ghiare a Berceto. Esatto. E sì. Che cos'è? Che struttura è? Una struttura abbandonata? Ma allora, è una struttura del 1911. Sì. Quindi, insomma, una struttura storica che ad oggi è in disuso e che necessita di un recupero, di una recupero. Riqualificazione. Allora, il sindaco di Berceto ha fatto un appello. Esatto, il sindaco di Berceto, in collaborazione anche con alcuni architetti professionisti che si sono già occupati di un progetto di recupero di questa fornace, ha fatto un appello che poi si è diffuso ben oltre la provincia, tant'è che sono arrivati studenti da Milano, da Torino, da Bologna. Sì. E l'appello è quello di salvare questo edificio che ha una memoria storica pazzesca, è situato in un... Non so se conosce la Valtaro, ma... Anche qualche dal cosa, qualche cosa. Ci passo spesso con l'autostrada per fare, diciamo, lungo l'Appennino, quel pezzo lì di autostrada. Esatto. Adesso non mi ricordo come si chiama. Che... Sì. Appena dopo l'uscita di Borgo Taro, sì. Ed è una struttura che si staglia proprio in questo paesaggio appenninico, e l'appello del sindaco è stato proprio quello di cercare di recuperare questa struttura, non solo per recuperare la struttura in sé, ma per portare un valore aggiunto a quello che è il territorio. Per dargli nuova vita, per farci qualcosa. Esatto, ma io non ho capito perché sono stati convocati tutti questi giovani architetti e ingegneri lì. Non si poteva studiare un progetto sulla carta? Cioè, nel senso, avete fatto qualcosa poi di operativo? Avete messo le mani nei secchi con la calce? O certo. Cosa avete assolutamente fatto? Sì, assolutamente sì. Il progetto su carta ovviamente c'era. Sì. Era già partito da diversi anni, era arrivata una parte di finanziamenti, non tutti quelli previsti, e comunque sulla base di questo progetto... Per farne che cosa? Scusami Viola. Allora, ad oggi, visti i finanziamenti attuali, sì. nella parte dell'edificio su cui abbiamo lavorato noi, si pensava di installare una parte dedicata alle installazioni, esposizioni temporanee e non. Quindi un museo, diciamo così, per semplificare. Esatto, anche se a lungo termine l'obiettivo sarebbe quello di creare un luogo ricettivo per tutto quello che è il comune poi di Berceto e forse anche per una realtà di più ampio respiro. Quindi un luogo ricettivo, cioè potrebbe essere un albergo, un ristorante, cioè cose così per il turismo. Da questo punto di vista dipende ovviamente dai finanziamenti, nel senso che sì. I progetti purtroppo senza finanziamenti non... Cioè voi ci avete le idee, però ci vuole qualcuno esatto. che ci metta i soldi per finanziare questa cosa qua. E la cosa bella esatto. che abbiamo letto è che per fare questa cosa qua, per lavorare a questo progetto, talmente l'entusiasmo di un giovane architetto di 24 anni, nel tuo caso venivi da Parma, ma gente che arrivava anche da Torino, vi siete pure pagati il pranzo, avete dovuto pure pagare 50 euro. Ma oddio, dunque, intanto la partecipazione al workshop non è stata una... non è che abbiamo pagato per lavorare, questa quota che abbiamo versato è servita a coprire le spese assicurative. Certo. E poi insomma la Proloco si è occupata degli alloggi, del pranzo, della colazione, è stato comprato del materiale didattico perché comunque al mattino seguivamo anche ogni giorno gli architetti ci hanno proprio fatto delle lezioni teoriche e pratiche allo stesso tempo. Quindi in qualche modo è stato anche un momento nel quale avete imparato qualcosa, no? Perché a noi piace molto, ne abbiamo parlato anche prima con la storia delle case a un euro nei borghi antichi, l'idea sì. del recupero è fantastica, però sì. se ci vuole che qualcuno ci metta i soldi, altrimenti si rischia di parlare a vuoto o di anche creare illusioni che poi non si realizzano. Però insomma a noi ci piace, ci crediamo, quindi ci è piaciuta questa iniziativa che è stata fatta a Berceto, l'entusiasmo con la quale è stata raccolta. Ma toglimi una curiosità, nella foto sì. in mezzo c'è un signore con la barba bianca, sembra Renzo Piano, si vede poco ma non è lui. No, non è lui, gli però assomiglia. La somiglianza è stata notata anche da noi. È un altro architetto. Un architetto, sì. Evidentemente gli architetti hanno tutti qualcosa che li fa assomigliare al padre di tutti gli architetti, Renzo Piano. Insomma, alla fine vi rivedrete, che farete? Andrete avanti? Si è creato un gruppo di amici, che succede? Quindi a parte il gruppo di amici ci siamo trovati proprio come gruppo di ragazzi propositivi che hanno voglia di lavorare concretamente e questo progetto andrà avanti di anno in anno, insomma noi ce lo siamo augurati e vedremo insomma. Adesso bisogna tirare fuori i soldi. Chi si occupa di questo? Il comune di Belsindaco o c'è un sito, un crowdfunding? I finanziamenti, dunque, sicuramente se ne passeranno attraverso Luigi Lucchi, sindaco di Berceto, però è un progetto che è patrocinato dall'Unione Europea, quindi i finanziamenti dovrebbero arrivare dall'Europa, insomma. Speriamo, incrociamo le dita. Intanto in sì. bocca al lupo e buona estate, Viola Fabi, grazie. Sì. Ciao, a presto. Buona estate anche a voi, buonasera. Grazie. E questa era la storia, il workshop Recuperiamo la fornace a Berceto. 800 24 00 24, borsa. 800 24 00 24. Allora, andiamo con gli interventi degli ascoltatori. Riprendiamo da chi riprendiamo? Da Giovanni che ci chiama da Pordenone, che avevamo chiamato a causa anche un po' di tempo fa. Giovanni, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Adesso siamo da soli, senza ospiti, quindi comunque grazie. Meglio forse. Senta, sì. Io volevo intervenire sulla problematica che avevate precedentemente affrontato lei e il dottor Di Pietro, sì. quando parlavate della cessione dei terreni ai giovani agricoltori. Sì. Io mi sono trovato sull'argomento per dei miei clienti per i quali ho fatto le domande di acquisizione di questi terreni. Ah sì? Lei, ma cosa, lei che lavoro fa? Il consulente? L'avvocato? Cosa fa? No, commercialista? Faccio geometra. E faccio queste pratiche anche per l'acquisizione di questi terreni. Ah, interessante. Quindi lei si sta occupando ma di questa cosa in particolare sì, dei infatti. Martina o di altre cose regionali, altre banche della terra? No, io mi sono occupato dell'acquisizione di terreni demaniali da parte di agricoltori e di aziende agricole. Sì, vabbè, a prescindere dall'iniziativa di Martina, cioè altre cose, altre acquisizioni per altre strade. Sì. Dunque, la problematica deriva dal prezzo imposto dall'attuale normativa. E che prezzo impone? Allora, l'attuale normativa impone un prezzo al metro quadrato. prezzo sì. €10. Che è tanto poco. Allora, se parliamo di un terreno che è a ridosso di una città, che è a ridosso, chiaramente può essere un prezzo giusto, addirittura se andiamo a raffrontarlo con i terreni che si trovano in Val di Non, per esempio, sì. oppure presso il lago di Garda, chiaramente è un prezzo basso. Ok. Però se questo noi andiamo a raffrontarlo con prezzi come nella nostra zona di Pordenone, di Magreni, eccetera, dove abbiamo prezzi che vanno dai €3 ai massimo €4 per terreni seminativi. Sì. Andiamo a comprare dei relitti. A prezzi troppo alti. È chiaro. Però mi scusi Giovanni, ci spieghi una cosa, scusi. Questo prezzo di €10 al metro quadro di cui lei parla, è un prezzo indicativo, obbligatorio? Che tipo è di prezzo? È obbligatorio, è imposto dalla normativa. Però guardi che questa cosa che dice lei, io credo che l'iniziativa del ministro Martina bypassi, cioè giri attorno a questo prezzo, perché lui ha detto i prezzi devono ancora essere stabiliti, quindi se fosse vero quello che dice lei il prezzo c'era già. No, il prezzo per qualsiasi agricoltore in questo momento sì. se Martina non prende i giusti provvedimenti sì. no, è di €10 al metro quadro, al quale deve aggiungersi un sovraccosto per l'indennità di occupazione, perché magari uno aveva già... Vabbè, però scusi Giovanni, lei ci sta, al 200%. Sì, ci sta dicendo che c'è un prezzo che può essere in alcuni casi alto, in altri casi basso, quindi è una media, un po' come il pollo di Trilussa, a seconda dove si casca, si casca. Ci vuole un po' di flessibilità e di intelligenza, altrimenti si rischia di regalare terre a troppo a buon mercato o in altri casi di vanificare il provvedimento non dando niente a nessuno, perché a €10 in una zona dove ne vale 3 non lo compra nessuno. Lei ha perfettamente ragione. Io spero che Martina si sia un po', è giovane, è neo ministro, ma che si sia documentato su questo, sennò siamo davvero alla frutta. Però poi mi dica una cosa, insomma, di queste cose che lei ha trattato, no? Come geometra, poi qualcuno è andata in porto a buon fine? Purtroppo no, perché si sono ritirati. Tutti? Tutti. Con niente. La T maiuscola. Va bene, che dobbiamo fare? Speriamo che il futuro invece ci porti di buone nuove da questo punto di vista, che si siano aggirati gli ostacoli Roma, che lei giustamente ha messo in evidenza. Sì. Roma è troppo lontana, secondo me. Bisognerebbe che il ministro sì. riconoscesse che è necessario lasciare più indipendenza ai vari uffici territoriali. Sì, però ci vogliono perché anche delle linee. Sì, ci vogliono delle linee di indirizzo e delle, come dire, anche delle previsioni di legge, perché se uno una cosa non la può fare, qua parliamo, Giovanni, adesso mi viene in mente di terreni del demanio, terreni dello Stato, non terreni comunali o regionali. No, dello Stato. Esatto, quindi il Comune e la Regione non ci fa nulla, perché se sono dello Stato non è che può intervenire il Comune o la Regione, deve intervenire lo Stato. Diciamo, quindi su questo non possiamo dire a Martina di fare lavorare gli enti locali, perché è una cosa che dipende dallo Stato. Però poi certo ci vogliono i tecnici bravi, geometri come lei, dentro il Ministero, che facciano funzionare le cose. Ma no, io penso che non servono dei tecnici specifici, no. Basterebbe e cosa serve? Il buon senso. I buoni padri di famiglia. Vabbè, sì, anche qualcuno che sappia fare di conto. Grazie Giovanni, buona serata e in bocca al lupo. Andiamo con Armando che ci chiama da Palermo. La battuta finale dell'ascoltatore precedente mi ha cassato la mia. Gli ha bruciato l'intervento? Sì, no, quello no. Volevo fare i complimenti al vostro staff, che è veramente gentile. Grazie. Allora, chi c'è Silvia stasera al centralino? Chi c'è? Redazione? Chi c'è Silvia al centralino stasera? Sì, quindi ringraziamo Silvia. Va bene. Silvia e Lucia mi hanno risposto. Vabbè. Ah, Lucia e Silvia. Armando, prego, sì. Allora, si tratta di questo. Si dice che l'amministrazione pubblica dovrebbe essere amministrata quantomeno come un buon padre di famiglia, e con la battuta che mi ha bruciato l'ascoltatore, come un buon padre di famiglia tratterebbe i suoi figli. Ora io le chiedo, in una famiglia dove ci sono i figli che stanno morendo di fame, il padre non si occupa di rinnovare il tetto, che il tetto ancora tiene, perché dice, sai com'è, lo voglio fare più bello. prima pensa a far male i suoi figli. Oddio Armando, però lei ha fatto il giro largo per dire che la riforma del Senato non serve a nulla e bisogna occuparsi dell'economia, questo? No, signore mio, non sto dicendo questo. Dico che stanno sbagliando i tempi. Prima si deve pensare all'economia, visto lo 0,2% di recessione, che non ce l'ha nessun'altra nazione d'Europa. Quindi 0,2 di PIL negativo sono miliardi che vengono meno al popolo italiano per i suoi bisogni. Allora io dico, pensiamo prima all'economia, a tirar su questo disgraziato paese dove c'è gente che muore di fame, gente che si suicida, fabbriche che chiudono, poi dopo pensiamo alle riforme istituzionali. Io penso che un padre di famiglia farebbe così, e invece oggi sinceramente mi accorgo dell'arroganza di Renzi, che fa no, con le riforme istituzionali tutto sarà più bello. Sono 60 anni che fanno riforme istituzionali e siamo andati sempre più indietro. Armando, grazie, buona serata. Dove andiamo? A Giuseppe che chiama da Firenze, buonasera. Salve, buonasera, pronto? Sì, la sentiamo. Salve, buonasera. Senti, io volevo praticamente parlare per quanto riguarda la questione degli 80 euro in busta paga che il nostro primo ministro ha deciso di far avere a quei, insomma, non so, 10 milioni di lavoratori che hanno un posto di lavoro, mentre ci sono tante altre persone che non ce l'hanno proprio il posto di lavoro. Invece di pensare magari a con questi 80 euro, io penso che non so quanti in toto quanto sono, saranno 5-10 miliardi che praticamente sono andate nelle famiglie degli italiani, però con questi 5-10 miliardi probabilmente avrebbe potuto creare un mega impianto di che cosa, ce lo dica lei? Sì. No, non mi non le viene più la parola. No, sono un po' emozionato, però siccome a Napoli c'è la questione dei rifiuti, un mega impianto di riciclaggio dei rifiuti. E poi roba che ci facevamo con l'impianto di riciclaggio dei rifiuti? Si occupavano un po' di persone, invece di avere 80 euro in busta paga per poche persone, forse qualche migliaia di persone aveva uno stipendio. Giuseppe, forse ho capito. Si diminuiva la disoccupazione. Però, un pochino. Oppure magari, visto che paghiamo l'energia, troppi soldi, paghiamo l'energia, forse si poteva fare un impianto di energia rinnovabile. Non so. Vabbè, guardi, se vogliamo fare l'elenco delle cose che si potevano fare con 5 miliardi, in effetti possiamo star qua tutta la sera. L'intento era quello di far ripartire i consumi con questi 80 euro che, insomma, le famiglie avrebbero dovuto spendere, in parte avranno anche speso, anche se non hanno risollevato molto. Far ripartire i consumi, far ripartire quindi le imprese, creare, era come mettere olio nel meccanismo. Non è che la scelta è stata fatta fra tante cose così a caso. L'idea era quella. Probabilmente l'idea non ha funzionato, anzi sicuramente, stando ai dati che abbiamo di fronte, non ha funzionato almeno fino ad ora. E quindi è stato probabilmente un errore. Però la ratio era quella. Ex post, dire adesso si poteva fare questo, poteva realizzarlo, va bene. Non serve a moltissimo, però va benissimo, Giuseppe. Grazie, buona serata. Gabriele da Genova. Sì, pronto. Eccolo qua, buonasera. Buonasera, il telefono da Genova, sono un artigiano. Sì. A me piace bene tanto anche 80 euro, mi sta bene tutto quanto. Bene. Però se non sono i piccoli imprenditori che danno lavoro, sì, non è possibile. Cioè, beh, qui siamo arrivati a una tassazione ormai assurda. Siamo quasi al 72% di tassazione tra INPS e IRPEF. È vero che l'INPS serve per la pensione, se ci arriveremo però. Lo so, però dire che l'INPS è una tassazione in realtà è una prestazione rimandata. Però bisogna contribuirli comunque. No? Bisogna contribuirli, certo. Ci sono paesi dove questo non entra non ci sono contributi obbligatori, e però ci sono altre questioni, altre storie. Certo, però diciamo che in questo momento qua, che c'è poco lavoro, quel poco che hai te lo devi versare o devi pagare, praticamente rimani senza soldi per investire per il futuro, che per dare anche possibilità ai giovani. Perché anche io vorrei prendere un ragazzo perché mi dia una mano. Lei che lavoro fa? Che impresa c'ha? Artigiano, apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche. Per esempio, ma lavora per qualche azienda o per l'industria, la media e la grande industria. Fincantieri anche lei, no? No, non ha niente a che vedere con Genova. Ah, ok. E quindi diciamo, io vorrei prendere un ragazzo che mi dia una mano, ma se uno va a vedere la tassazione che uno poi si ritrova, che c'è un dipendente in più, un ragazzo che ti costa, se c'è il lavoro o non c'è il lavoro, cioè diventa impossibile. Almeno io ho iniziato a lavorare che avevo 16 anni, andavo a lavorare in famoso Torino, si chiamava La Boita, ti davano 4 soldi ma imparavi il mestiere. Adesso non dico che bisogna arrivare a quello, però dico, diamo la possibilità ai ragazzi di imparare un mestiere, perché da quello che io ho visto sono ragazzi che 30 anni che non sono capaci a fare niente. Questa è ancora un'altra questione, va bene, però non affrontiamola adesso. Grazie Gabriele, buona serata. Adesso invece affrontiamo una cosa per stomaci forti, perché parliamo dei vitalizi dei consiglieri regionali. Gioco a Texas Hold'em ogni sera, vendo gli involtini primavera al cinese, da qualche mese gestisco part time una libreria vicino a casa mia ed ho un monolocale sulla luna, affitto e mi rende una fortuna ed ho capito tutto della vita, guadagno tanto con poca fatica e pianto l'erba voglio, naffio l'erba voglio, ma dai, vendo l'erba voglio, ho fatto i soldi facili. Sono uscito fuori. Buonasera ad Alessandro Patelli, ex tesoriere della Lega Nord. Ed ex. Buonasera, vedo che siamo non partiti si così. Dimentica mai che sono stato il consigliere della Lega. No, beh, consigliere, ex consigliere regionale della Lombardia, ex tesoriere della Lega, ex tante cose. Che cosa avrebbe preferito che dicessi nel tuo? No, va bene, non mi sono mai posto il problema né sì. di togliere né di mettere titoli, quindi. Vabbè, va benissimo come mi piace, mi piace. Noi abbiamo scelto questo tra i tanti. Le è piaciuta anche la musica che abbiamo scelto, un po' così, insomma. Ma direi il ritmo era bello, interessante, anche perché poi alla fin fine il ritmo è sempre piacevole. E lei guarda il ritmo e non guarda le parole. Perché insomma, per fare le i soldi facili. Ma io, mi è rimasto impresso il titolo. Allora, voglio, mio papà mi diceva sempre che non sì. nasce nel giardino. Dove nasce? Ma nasce solo in quello del re. In quello del re. Ecco, infatti è questo il punto, perché per fare i soldi facili o uno vende l'erbavoglio oppure si fa un giro come consigliere regionale, prende il vitalizio, tac. Per i cittadini questi sono soldi facili, diciamolo. Ma direi, non lo so, io distinguerei, io dico sempre anche sì. ai colleghi attuali della regione Lombardia, perché di quella che posso parlare, non delle sì. altre, che ci sono periodi diversi. Io ho avuto modo di leggere verbali del primo periodo della regione, ho avuto l'esperienza dei miei primi e i miei secondi 5 anni in regione sì. e la seguo tuttora, perché essendo segretario dell'associazione consiglieri sì. ci vado spesso. Ecco, ad esempio questa è una carica che non è pagata, prima che magari qualcuno dica che anche quelli sono soldi facili, e sono momenti diversi, cioè sono regioni che proprio strutturalmente hanno lavori completamente diversi. Io mi ricordo che al mio periodo facevamo dal lunedì pomeriggio sì. diciamo al venerdì mattina in consiglio regionale, cioè si lavorava sodo, va bene, lavoravate 5 giorni su 6, giustamente. Adesso, un po' meno, ma questo non significa, cioè, per dire che la pensione è meritata. Oh, però adesso sul discorso della pensione, vabbè, come tutti, ma non proprio come tutti, perché lei per esempio a che età ha cominciato a prendere il vitalizio? A 58 anni mi sembra, non vorrei sbagliarmi, hanno più o hanno meno, ma a diciamo, 58 anni. Già un'età, se vogliamo, avanzata. Ci sono baby pensionati nel settore pubblico, forse anche privato, che negli anni sono andati sì. in pensione anche più giovani. Sicuramente erano altri anni, questo sì. Oggi però un consigliere regionale, giustamente, deve aspettare 60 anni, ma la legge che è in discussione al Pirellone in Lombardia è per portarlo ancora più avanti, perché bisogna posticiparla questo vitalizio, se no costa troppo. Lei prende 3.600 credo 86 lordi, e adesso il lordo non me lo ricordo sì, comunque sarà quello, perché sono dati sì. esterni, quindi sarà quello sicuramente. Sono 7 milioni di euro l'anno, non lei, ma tutti i vitalizi in Lombardia. Sì. E si cerca di, come dire, di tamponare un po' la falla, perché di soldi non ce ne sono più. I nuovi consiglieri andranno in pensione più tardi, con pensioni più basse. E la legge che ha voluto il presidente del Consiglio regionale Cattaneo è questa: un contributo di solidarietà vi chiede il 10%, ma voi non ci state. Ma non è il discorso che non ci stiamo, il discorso che un contributo di solidarietà l'avevamo proposto anche noi, ma parlo mesi fa, per non dire che ne stavamo discutendo da almeno un paio d'anni, è la logica con cui viene imposto. Cioè, noi possiamo affrontare il problema dei vitalizi in due modi: o da un punto di vista legislativo costituzionale o su un discorso di spesa. Se lo facciamo costituzionale, allora entriamo in un meccanismo di garanzie democratiche e di ricorsi. Farete ricorso, lo vincerete e non vi verrà tolto nulla. Sì, ma non è tanto quello. Allora si incomincia col dire che dalla regione Lombardia, sin dal 1995, per gli eletti negli anni successivi, perché non poteva essere precedente, i 55 anni non c'è più. Cioè, quindi era già a 60 anni. Già dal 95 si era posto un tetto al vitalizio che non poteva, dopo tre mandati, non aumentava più, anche se uno rimaneva. Vabbè, 4, insomma, sono state fatte un po' di riforme. Ma viva Dio, viva Dio, perché altrimenti questo debito pubblico, se no, doveva finire. E queste sono riforme necessarie. Il punto è che vi viene chiesto un sacrificio del 10% per tre anni. Allora, ecco, però voi avete detto no, non sarebbe meglio. Voglio dire sì, visto che avete anche un'altra pensione, lei avrà anche un'altra pensione, allora, no? Non è che vive di quei. Non ce l'ho la pensione. Ha fatto solo quello. Solo di questo, perché il momento che si ho scelto di entrare in politica avevo un'attività artigiana, l'ho chiusa perché mi è stato chiesto di impegnarmi in politica, e quindi io forse l'altra la prenderò non so quanto, perché poi non avendo più versato e non avendo contributi figurativi, probabilmente saranno versamenti vecchi, qualche cosina arriverà. Cioè, lei in tutta la sua vita ha lavorato solo per 10 anni in consiglio regionale? No, calma, le sto dicendo che fino a quando sono entrato in politica io avevo un'attività artigiana, e quindi io ho incominciato a 11-12 anni a lavorare, fino a 40 ho lavorato. E quindi, e quei contributi non le rendono nulla? Al momento no, visto che io ho 64 anni, vado per i 65, ma non avendo maturato i 35 anni, allora devo aspettare la finestra dell'anzianità, non so, sarà 67-68 anni, lo so, ma diciamo non soffro la fame, ecco, tanto per intenderci, però ho solo il vitalizio. La logica è, bene, se il discorso lo affrontiamo sul discorso della spesa, noi sono almeno 5 anni, e quindi sul risparmio per la regione, perché poi alla fine è quello, noi da 5 anni ci siamo messi a disposizione, ma l'abbiamo detto ai presidenti della giunta, ai presidenti del consiglio, dicendo guardate che all'interno dell'associazione consiglieri, degli ex consiglieri, diciamo, ci sono delle professionalità abbastanza alte, perché c'è gente che ha fatto leggi, piani di trasporto, ancora? No, gli abbiamo detto, ma se avete bisogno di noi gratuitamente, attenzione, gratuitamente, noi siamo a disposizione, quindi chiedeteci eventualmente quello che vi serve, ma io dico anche banalmente, non dateci degli incarichi, volete controlli ex ante, ex post delle leggi regionali, che tipo di funzione, cioè chi più di noi che ha però fatto le leggi potrebbe. Fratelli, quello che lei sta dicendo è interessante in linea di massima, però io non è che posso affidare il controllo delle leggi all'associazione degli ex consiglieri regionali. E poi chi ne risponde? Chi ne risponde adesso? Se il controllo ex ante ex post è dato come consulenza esterna, oltre che qualche dipendente interno di coordinamento. Cioè, dico, sono soldi risparmiati. Io banalmente dico, con tutte le aziende regionali che abbiamo, sarebbero soldi risparmiati anche se si riuscisse a far passare questo contributo di solidarietà per persone che, avendo lavorato 10 anni, prendono la pensione di quasi 4.000 euro al mese. E credo che non sarebbe, ecco, tagliamo la testa al toro. Testa al toro, Patelli, lei ha ragione su tutto. Io però le faccio un'altra domanda: non sarebbe un segno, diciamo, di stare al passo coi tempi accettare questa cosa qua, rispetto ai pensionati che hanno 800 euro al mese, cassa integrati, disoccupati che ci sono e che vi pagano attualmente il vitalizio? Non sarebbe più di buon gusto anche? Io non nessuno di noi sta mettendo in discussione questo, perché attenzione, se noi stessi avevamo proposto un fondo per i giovani, non farete ricorso, ci sta dicendo che non farete ricorso. No, il discorso è che noi proponiamo eventualmente un fondo, un'impostazione completamente diversa su base volontaria, che a quel punto non va a toccare assolutamente niente. Lei mi dice, come mi è stato detto dal presidente, ma tutti pagheranno. Io non posso garantire se il 100% degli ex consiglieri pagheranno. Ma su base volontaria voi che cosa proponete? Cioè che ognuno devolve tot così in beneficenza? Ma si era fatta delle proposte con delle percentuali a secondo degli scaglioni, a secondo di tutta, era un'impostazione applicabilissima, no? Però no, non è possibile chiedere all'associazione che ha un introito di 13-15 mila euro l'anno dalle quote associative di garantire che in un certo punto annualmente avvenga un risparmio di 500 mila euro, cioè non, una cosa che non potremmo fare noi, ma è chiaro che comunque non mi ha risposto, cioè lei non, alla domanda che le ho fatto prima non mi risponde, non, se non sarebbe, ma perché io non posso rispondere a nome di tutta l'associazione, no, a nome suo, a nome suo, cioè no, mettiamo no, che la legge che vuol fare il presidente Cattaneo del Consiglio regionale Lombardo passi, lei farà ricorso? Beh, noi come associazione faremo ricorso, non, se l'impostazione com'è, poi sa, le leggi entrano in un modo e escono in un altro e potrebbe essere benissimo migliorata, come ad esempio la destinazione del fondo che a tuttora non si capisce se entra nel calderone della regione e se va a finanziare cose che non sono poi. Ma voi, voi farete ricorso perché chiaramente vi appellate a un diritto che da qualche parte sta scritto e vi consente di fare questo ricorso, poi che l'ho vinciato, no, è un altro discorso. Vabbè, ma questo, ma non vi sentite dei privilegiati che non dovrebbero farlo questo ricorso? Questa ma è la domanda. Lei, ma se lei lo affronta sotto questo aspetto, sì, allora io potrei dirgli bene, ma allora potevano dirmi quando io sono entrato in politica che avrei corso questo rischio o che comunque non avevo, ma una quale copertura. Rischio, scusi, avrei... Quale rischio? Di fare un contributo su una pensione di 4.000 euro del 10% per 3 anni? Quattro, ma non è lì il problema, potrebbe essere anche un contributo di 20 anni o contributo fisso o non sì, esserci addirittura, però io parto sempre dal concetto, come lei mi ha chiesto prima se sì, avevo altre entrate, io le ho detto che altre entrate non ne ho perché sono fatte delle scelte all'inizio, ma non l'ho fatta io, l'ho fatta in tanti. Sì. Non, allora non era la politica un mestiere, allora la politica la si faceva più come servizio che come convinzione, era una maturazione che avveniva nel tempo e non perché ero stato scelto via internet o attraverso i sistemi delle chat, cioè io dico non ho problemi perché attualmente io sto facendo del volontariato, ho fatto del volontariato, vado in associazione gratuitamente e quindi è un modo per dare comunque indirettamente alla collettività lombarda. Quando venivano da me in consiglio regionale, io non se c'era da dare qualcosa, offrire qualcosa, era comunque la regione che ospitava questa gente, quindi non mi trovo di fronte sì, fate, no, non fate la il ricorso, perché secondo me è un po' un discorso di lana caprina, il discorso è vogliamo risparmiare, sì, ecco, noi siamo disponibili, ci sediamo, vediamo se la regione Lombardia può risparmiare 500 mila euro all'anno, se ne può risparmiare di più, allora ci sediamo. E sedetevi allora, sedetevi, mi raccomando. Gliel'abbiamo proposto all'ufficio, al gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è uscita una proposta legislativa nei suoi punti, sì, non era stesa allora, che era esattamente quella iniziale di quando ci hanno chiesto di fare un incontro, di incontrarci per la prima volta. Quindi, cioè, dopo quasi un anno non è cambiato assolutamente niente. Noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità, cioè, ma ve l'abbiamo dato. Esiste una legge, ad esempio leggevo oggi e ieri sia di Del Rio che di Ciamparino che interverranno, ma esiste già una legge nazionale inserita nel decreto sulla finanziaria del 2013, sì, dove definisce già gli importi dei moltiplicatori che al di sopra di un certo livello. Sì, ma questo vale per il futuro, questo vale per il futuro. Il problema sa qual è? Che no, se vale tutti il problema, noi, le dico no, chiaramente no, no, quello no, che penso, Patelli. Vale anche no, per noi, si fermi vale lei. Le noi, dico quello che se gli attuali consiglieri regionali ragionassero come ragionate voi, non si farebbe la riforma del vitalizio, perché loro sono entrati in consiglio regionale con delle regole, adesso si stanno riregolando, come dire, diminuendo il vitalizio, aumentando l'età nella quale si va a percepire, quindi stanno facendo un sacrificio, no, se no, lo faranno, come no, hanno fatto altri consiglieri. Non conosce, il discorso è che gli attuali che stanno intervenendo, sì, addirittura loro il vitalizio l'hanno abolito e quindi non c'è. Per la non prossima legislatura. No, già da questa. E lo vede, allora questa. Mi dà ragione. No, ma attenzione però. I signori che stanno decidendo sono, sì, quelli che però hanno riscosso i contributi che avevano versato allora, cioè a suo tempo avevano versato la scorsa legislatura o quella precedente, avevano versato, beh, i contributi. Beh, anche voi avete riscosso i abbastanza, lei da quanti anni prende il vitalizio? Io lo sto prendendo da 5 anni, quindi sì. Ma se fa un discorso, è per quello che io dico, attenzione, se facciamo un discorso di risparmio è una cosa, se facciamo un discorso di opinione pubblica, di segnali, di altra roba, allora è diverso, perché guardi che se... Ma io credo che, ci sia tutte e due, ci sia la necessità di risparmio, perché se no andiamo a dichiarare fallimento, Stato, regioni, province, comuni e tutti, c'è poi una questione anche, credo, simbolica forse, che ha anche questo valore qua, perché no, insomma, perché non perché negarlo? Però il discorso che stiamo facendo sia abbastanza, cioè il coordinamento nazionale di tutte le associazioni, sì, proprio per uniformare, chiedere degli interventi, già da 4-5 anni aveva chiesto incontri con i presidenti della conferenza delle regioni per dire: ma guardate che sta succedendo, l'ira di Dio, perché ci sono regioni che stanno aumentando le indennità in modo improprio, ci sono gente che sta intervenendo sulle spese, c'è gente che ha... non ci hanno mai sentito parlare, quindi il problema gli è, diciamo, in senso generale. Avete l'occasione di farvi sentire adesso, Patelli, dicendo che rinunciate al ricorso per un 10%, potete farlo, facile. Questo potete farlo, io credo, poi io non convinco lei non convince me, non importa. Però se mi viene a dire che siete andati a parlare per proporre, non si è ancora capito che cosa, e non vi hanno ascoltato, io non credo che se andavate a proporre dei risparmi non vi ascoltavano, dei risparmi seri però, e non briciole. Eravamo andati a ridurre, alla proposta di ridurre e di regolamentare meglio. Di ridurre di quanto? Adesso non me lo ricordo, non ho fatto mano. Grazie, buonasera Alessandro Patelli, grazie per essere stato con noi, buona serata. Sono le 20 in punto, vediamo un po' se abbiamo la possibilità di sentire i titoli dei telegiornali. Cominciamo dalla 7, vediamo se c'è Mentana in onda. Catastrofe umanitaria, fino a far dire a Barack Obama che è possibile che gli Stati Uniti intervengano militarmente attraverso raid aerei nel nord dell'Iraq. Ora voi capite che cosa vuol dire 11 anni dopo la guerra dell'Iraq sentir dire da un presidente americano che c'è la possibilità di un'azione. Sarà riunito il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia, che a sua volta ha promesso il suo aiuto anche militare all'Iraq e alle forze di Baghdad del governo iracheno, ma anche dei curdi del nord del paese. La preoccupazione internazionale, come capite, è forte. Ma voi direte: ma non c'erano ieri altre preoccupazioni, quelle sull'euro, quelle sulla situazione italiana, quelle sul PIL? Certo, anche di quello parleremo, perché Draghi ha detto che ci vogliono riforme e in fretta, e praticamente la cabina di regia delle riforme non dovrebbe più stare negli stati nazionali per far sì che le cose davvero marcino. Ma se c'era una speranza che le parole del Presidente della Banca Centrale Europea placassero i mercati, non è stato così. Spread a 180, la borsa ha perso un altro 2%. Va bene, questa è Mentana al preambolo ai titoli della 7, noi invece sentiamo i titoli del TG1. Accordo fatto tra l'Italia ed Etihad, domani la firma, ma si teme la paralisi a Fiumicino per una valanga di certificati medici dei dipendenti. Draghi, gli stati cedano sovranità per le riforme strutturali, in Italia l'incertezza blocca gli investimenti, dice il presidente della BCE. Il ministro Padoan al Parlamento, spending review decisiva per conti e crescita, se non si procede taglia le detrazioni dal 2015. Riforme al Senato, concluse le votazioni sul testo Boschi, domani il via libera, bagarre in aula, espulso un senatore dei 5 Stelle. Iraq, 100.000 cristiani in fuga per l'avanzata degli estremisti islamici dell'ISIS, Papa Francesco, fermate questo dramma umanitario. Duomo gremito a Pieve di Soligo per i funerali delle 4 vittime dell'alluvione di Refrontolo, che ha trasformato la festa del paese in tragedia. Anche la Serie B compatta in sostegno a Carlo Tavecchio, che intervistato dal TG1 risponde alle accuse di razzismo e spiega il suo programma per la presidenza della Federcalcio. Eccoci qua, 800 24 00 24, andiamo con Francesco che ci chiama da Roma. Pronto? Francesco, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io sono un esubero all'Italia. Un esubero, sì, ancora non è stato ufficializzato. Ma cioè lei perderà il lavoro col nuovo accordo? Io perderò il lavoro. Questo sì, mi dispiace. Perderò il lavoro. Che lavoro faceva? Che mansione svolge lei? Io sono un impiegato in un ufficio operativo. Quello che ci tenevo. Ma dipendente proprio all'Italia o di una società esterna? Dipendente all'Italia. No, dipendente. Perché non era stato detto che c'era mobilità, proposte di riassunzione, eccetera. Allora, il discorso è questo. Hanno detto 2100 e passa i subedi. Ok, a me mi verranno a proporre molto probabilmente. Io ho una determinata posizione dopo 15 anni che lavoro lì dentro, mi sono fatto valere, ho preso i livelli che dovevo prendere, tutto quanto. Non sono un privilegiato, lo tengo a sottolineare, perché c'ho uno stipendio normalissimo lavorando su turni 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e mi potrebbero venire a dire: guarda, tu sei un esubero, però noi, visto che sei valido magari, ti vogliamo riassumere in azienda. Però ecco, con 4 livelli in meno, a 5 ore part time, per cui io che sono, sono un esubero, non sono un esubero effettivamente. Tutto questo lavoro viene fatto solamente per tagliare le gambe agli impiegati, ai lavoratori praticamente, perché dicono 2200 esuberi quando tutti i giorni in rotazione 1200 persone, 1200 stagionali timbrano il cartellino all'Italia tutti i giorni. Quindi dicono che hanno fatto, ma i sindacati in primis, ci tengo a sottolinearlo, i sindacati in primis che hanno firmato queste cose, non possono firmare una cosa del genere, non possono firmare 2200 esuberi quando 200 poi vengono riassunti in all'Italia con metà dello stipendio. Quello è solamente, non è un esubero, ma è solamente un modo per pagare, giocare sempre al ribasso sul lavoro della gente. Oltre a questo, io che tra un mese forse perderò il lavoro, da questo mese ho il taglio dello stipendio di 100 e passa euro. Però lei, e poi mi verranno non è uno di quelli che ha mandato certificato medico in queste ore a Fiumicino. No, io vado al lavoro tutti i giorni, 109, ma questo non mi appartiene, però. Magari quelli che invece stanno mandando il certificato medico a Fiumicino è gente che non perderà neanche il lavoro, scommetto, non so perché. No, sicuramente questo no. Devo dire che cioè, comunque questo no, lavoro, perderanno il lavoro. Che tra un andare al lavoro sapendo che tra un mese ti cacciano via non è molto, non è semplice. No, ho capito, però lei ci sta andando. Io ho detto che quelli che fanno sciopero a Fiumicino, non lo so perché, ma ho la sensazione che potrebbero invece essere persone che il lavoro non lo perdono e che stanno cercando di, non lo so, di rialzare la posta. Questo non lo so, io di quelli dei bagagli che stanno protestando sono sicuro che la maggior parte perderà il lavoro e magari poi il mese dopo verranno riassunti come stagionali alla metà dello stipendio. Questo è il succo del discorso. E quanto guadagna, quanto guadagna uno di questi che prenderà la metà dello stipendio? Ah, loro non lo so, io so che lavorando su turni in un ufficio operativo da 15 anni io guadagno 1600 euro al mese, non di più. Però netto o lordo, scusi? Non ho capito. Netto o lordo? Netto. E il discorso però, io non biasimo in tutto questo discorso né all'Italia né Etihad, ok? Perché comunque loro fanno il loro gioco, nel senso che è ovvio che se io che sono un datore di lavoro posso pagare di meno un dipendente, faccio di tutto per pagarlo di meno. Io quello che è veramente inaccettabile è il lavoro del sindacato, perché comunque il sindacato dovrebbe tutelare il lavoratore. Va bene, Francesco. Grazie per averci dato anche qualche così retroscena su questa cosa all'Italia. Ci sarebbero tantissime altre cose, però ovviamente sarebbe lunga. Penso di sì. Andiamo con un altro ascoltatore che non so se si chiama Alfeno da Modena o sì. È questo il nome, sì. Sì. Si chiama Alfeno, esatto. Prego. Buonasera. E le permetto una cosa che mi è venuta in mente in un attimo. Io la giornata più brutta che ho vissuto nella vita è stato quando a 59-60 anni il commercialista mi disse: Alfeno, c'è una bella notizia, sei in pensione. Sono stato qualche momento lì che credevo di morire, perché la pensione è la parola più brutta che può avere un individuo. Questa è una mia premessa. Beh, addirittura la pensione è la parola più brutta. Il licenziamento è peggio, la pensione... No, sto parlando della pensione, perché un individuo quando non è più chiamato a fare qualche cosa, sì, che cosa serve? Io la penso così. Io sono un imprenditore che ho cominciato. Vabbè, un individuo che non serve è brutta come espressione. Un individuo può servire oltre che per il lavoro anche per altre funzioni umane, economiche e sociali. Quindi certo che la pensione è spesso è un trauma, sicuramente, ma non ho capito perché lei fa questo incipit al feno. No, ho fatto questo discorso perché stavo ascoltando la televisione, sì, sento. Però veniamo all'argomento per cui ha chiamato, sì, cos'era? Esatto, l'argomento era per l'Alitalia. Io ho ascoltato, mi piace ascoltare le trasmissioni che ci sono sempre di lavoro, di economia. Allora, in Italia trasportiamo circa, penso di non sbagliarmi, comunque mi correggerà, in Italia trasportiamo circa 20 milioni di passeggeri all'anno, abbiamo 16 mila dipendenti. In Germania trasportano 60 milioni di passeggeri, ci hanno 6 mila dipendenti. In Italia perdiamo 500 mila euro tutti i giorni. Mi sa dare una risposta a questi? Non c'è risposta. Ammesso che le sue cifre siano corrette, ma mi sembra che lei sia una persona discretamente affidabile, non c'è risposta. Ecco perché l'Italia è sostanzialmente fallita più volte, e adesso stanno arrivando gli arabi che vogliono rimettere in piedi la compagnia. Su questo non c'è dubbio. Grazie, buona serata. It's a magic number. Yes it is. It's a magic number. Poi naturalmente non vuol dire che tutti i danni e tutti, diciamo, gli sprechi che hanno fatto affondare, affossare e fallire l'Italia siano dipesi agli stipendi dei facchini di Fiumicino o del personale o dei dipendenti, perché ci sono buone uscite, manager che hanno preso svariati milioni di euro come buona uscita dopo aver contribuito a far fallire la compagnia. I conti andrebbero fatti andando a chiedere a conto anche a questi. Rossano Ercolini, buonasera, la tua musica. Buonasera. È il tuo momento. Scusa questa parentesi, diciamo un po' di amarezza, perché qua parliamo di Alitalia e parliamo ancora di persone che stanno perdendo il lavoro, scioperi, non ci si capisce più nulla, vabbè, staremo a vedere. È il momento invece dei tuoi, diciamo, le tue perle di saggezza. Andiamo ogni sera, quasi ogni sera, due volte a settimana, a rovistare nel cassonetto dei rifiuti per vedere che là dentro c'è una miniera d'oro. Questa volta quindi parliamo un po' anche, credo, di come riutilizzare le cose, Rossano. Sì, sì, e come dal riparazione riuso già adesso sia interessante fotografare una situazione che vede 3.283 esercizi commerciali che commercializzano usato, con una clientela che è aumentata in modo esponenziale e con un fatturato che è aumentato del 38,8% dal 2004, e con una clientela che per il 41% ci dice che compra non perché c'è la crisi, ma perché è figo comprare usato. Quindi, oh, questo mi sembra una cosa interessante, non è solo un ripiego, ma è una scelta. Sì, una scelta che tendenzialmente ci porta in Europa e ci porta a livello, diciamo, internazionale, dove... Ma in quell'Europa bella però, non in quell'Europa brutta di cui parliamo ogni tanto. No, l'Europa bella dove non c'è il pregiudizio di comprare usato. Da noi negli anni 60 si buttavano via maglie, mobili di grande prestigio per comprare cose assurde. Adesso anche in Italia la cultura dell'usato, dall'abito al mobile, all'oggetto, al libro, al DVD, sta entrando nel costume, e tant'è vero che il mercato è costituito prevalentemente da italiani, non, a dispetto di quanto si crede, da fasce sociali più deboli, quindi da immigrati che certamente hanno bisogno, sono aiutati, agevolati da questo mercato, però è l'italiano medio, soprattutto i giovani acquistano usato. Consideriamo che ci sono addirittura dei franchising, penso per esempio a tutta la catena degli indumenti, delle scarpine per bebè. Sì. Sta spopolando. Non diciamo il nome per non fare pubblicità, ma lo conosciamo, sì. Ecco, È chiaro che noi puntiamo non tanto su, anche se ovviamente noi in modo pluralistico riteniamo che vada sostenuto chiunque si pone sul terreno dell'innovazione, anche dei comportamenti e degli stili di vita, però noi privilegiamo la riparazione e riuso a chilometro zero, cioè proprio magari interfacciando le isole ecologiche, invece di portare i mobili in isola ecologica, perché diventano comunque rifiuto e tutt'al più vengono riciclati come legno, come metallo, intercettarli per istituire, per dare. Certo, per però adesso è chiaro, adesso ti faccio una domanda difficile a cui secondo me non sai rispondere, perché è impossibile rispondere, credo. Cioè, quello che tu mi stai facendo immaginare, io chiudo gli occhi e lo vedo, cioè accanto all'isola ecologica nella quale vado a conferire il mobile usato, le vernici usate, il televisore vecchio, eccetera, eccetera, ci mettiamo una stazione nella quale queste cose vengono lavorate, riparate e riofferte gratuitamente o a prezzi scontatissimi, eccetera, eccetera. Però questo è anche un lavoro, tra l'altro, daremmo lavoro, da lavorare anche a delle persone. Ma chi ce li dovrebbe mettere i soldi per fare questi investimenti? Dunque, intanto già da solo questo indotto, che sono, dicevamo, 3.283 esercizi commerciali, questi sono i rapporti dell'Occhio dei Ricicloni, che è il centro di ricerca che insieme al Ministero ha presentato questi dati, ci sono 80.000 persone che lavorano direttamente. Immaginiamo l'indotto. Se noi mettiamo a sistema e diciamo, siccome è stata introdotta la normativa per la prevenzione dei rifiuti e la riparazione e riuso è stata individuata come prevenzione giustamente del rifiuto, se noi mettessimo ogni 30.000 abitanti, un comune che ha 30.000 abitanti deve obbligatoriamente avere un centro di riparazione e riuso. Sapete quanti posti di lavoro, io non voglio sparare cifre, non voglio sparare numeri, ma sapete quanti posti di lavoro ci sarebbero? Però scusami Rossano, se non investisse soldi, ma programmasse l'obbligatorietà di centri di riparazione e riuso proprio logisticamente laddove è possibile a fronte delle isole ecologiche. Però bisognerebbe superare il patto di stabilità e i limiti di spesa dei comuni, perché altrimenti i comuni dovrebbero togliere fondi da qualcos'altro per assumere delle persone e farle lavorare. Potrebbe stare in piedi con un meccanismo di vendita. Se i comuni potessero investire, perché no? Però anche in assenza, anche proprio in tempi di vacche magre, il falegname, il giovane falegname, il giovane elettrotecnico che ripara le biciclette, il giovane familiare falegname che ripara i mobili, possono essere anche attraverso il comune di Capannori insieme al comune di Lucca, per un'area di 80.000, 100.000 abitanti, ha realizzato un villaggio della riparazione e riuso. Ci stanno lavorando almeno 3 persone, un addetto che ripara le biciclette, un addetto che ripara i mobili, più diversi volontari che riparano, e un negozio. Un negozio. Però scusami, io stasera sono un po' pedante. Chi paga lo stipendio alla fine del mese a questi 3 dipendenti? Questo è un progetto tra volontariato, in questo caso la Caritas, insieme alle aziende, ai gestori, cioè alle aziende di raccolta del rifiuto, che affittano gratuitamente il capannone e pagano i 2 addetti che fanno la riparazione dei cosiddetti beni durevoli, dei mobili, delle biciclette soprattutto, ma non solo. Poi i mobili vengono venduti, perché dobbiamo considerare, giustamente tu dici non deve pesare sul pubblico, ma noi dobbiamo puntare anche sulle entrate che vengono, per esempio, dall'emporio, dove vengono. L'emporio non è un luogo dove che puzza di rifiuto, è un luogo elegante dove si va a comprare merce di pregio, prodotti di pregio. Noi siamo stati a visitare il parco del riuso di Göteborg, siamo entrati nel ristorante, nella boutique dove ci sono i mobili, dove ci sono i vestiti, e quindi ecco, è questa la strada. Noi mandaci le foto, Rossano, le mettiamo su Facebook di Si può fare, così vediamo anche con i nostri occhi quello che ci stai raccontando. Ci fermiamo qua anche per stasera, potremmo andare avanti credo per almeno per quanto mi riguarda per ore, però adesso intanto devo dare la linea al traffico, poi Rossano ci sentiamo settimana prossima, grazie. Va benissimo, ciao, va un abbraccio, buon proseguimento, ciao. Traffico. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità, anche d'estate. Daniele dalla provincia di Mantova, buonasera. Buonasera. Eccoci qua, prego. Senta, io volevo volevo intervenire, perché prima ho sentito quell'ex consigliere regionale della Regione Lombardia, no? Sì, Patelli. Patelli, esatto. Quello lì è un consigliere da Repubblica delle Banane, secondo me, perché non si rendono conto questi signori di quello che c'è fuori. Io le dico, mia moglie va a pere, guadagna 7 euro e mezzo all'ora. Va a pere nel senso che va a raccogliere in campagna, la frutta. Esatto, sì. In campagna, sì, 7 euro e mezzo all'ora, 9 ore al giorno sotto il sole. E questo signore perché ha fatto, dice lui, è stato chiamato dalla politica, dall'ispirazione politica, ha fatto 10 anni mandati di consigliere comunale. Due mandati, dieci anni, e percepisce 4.000 euro netti al mese. No, non sono netti, ma sono lordi, però sono tanti lo stesso. Sono tanti rispetto a quello che ha fatto. Io vorrei capire che progetti ha mandato avanti, che leggi ha fatto. Ma per quanto possa avere, io posso avere mandato avanti tutti i progetti di questo mondo. È come se fossi un dipendente dell'Italia che ha guidato gli aerei portando sane e salve a casa tante persone. Però ci sono delle regole, si lavora, si va in pensione. Il vitalizio è una cosa che deve esistere più. Nasce, lo sappiamo tutti, perché bisogna fare in modo che anche chi non era ricco, non aveva alti stipendi, potesse dedicarsi alla politica rischiando di perdere il lavoro, e quindi poi dopo il vitalizio. Sì, vabbè, ho capito, ma adesso siamo in un altro mondo, non deve più esistere il vitalizio. E loro non lo capiscono. Purtroppo è cambiato il mondo, ma è cambiato anche in maniera molto rapida. È cambiato Daniele, però lei cosa c'ha? Viva voce, ha cambiato qualcosa, ha acceso la radio, la sentiamo male. Tolga viva voce, sì. Veramente, è uno scandalo sentire delle persone che parlano ancora così, è una vergogna. E poi ci stupiamo se l'Italia va male, ma per forza va male, ma quando c'è della gente che la pensa ancora così, è la logica conseguenza di una classe politica che è miope ai problemi della gente di tutti i giorni. Va bene, grazie Daniele. Io gliel'ho detto, perché se anche i consiglieri regionali attuali ragionassero così, invece sono spinti da pressioni ovviamente di riforme, l'opinione pubblica e quant'altro, sono stati eletti sapendo che dovevano intervenire su questo, ma se ragionassero sul fatto che il diritto acquisito non si tocca, allora neanche quello dei lavoratori all'Italia che guadagnava, 2.000 euro al mese, adesso ne può guadagnare 1.900. Perché? Perché glielo chiede l'Etihad, per rimanere in piedi la compagnia si fa un sacrificio. Forse è giusto, è sbagliato, ditemelo voi, però questo è quello che succede nella vita reale, tranne che per chi percepisce un vitalizio o anche pensioni molto alte che non si possono toccare. Naturalmente parliamo di pensioni alte, non vogliamo andare a prendercela con chi ha 1.000 euro di pensione, e poi questa è una pensione particolare, quella del vitalizio, molto particolare. Michele da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera. Buonasera. Intanto sono felice di parlare con Radio 24, non tante volte avevo chiamato. Ecco qua, adesso è il suo momento, prego. Grazie. Praticamente io volevo intervenire su quell'articolo che è uscito sul Sole 24 Ore, che sì. Medvedev vuole chiudere gli spazi aerei con all'Europa. E secondo me un pochettino di ragione ce l'ha, perché l'Europa forse sta entrando troppo spesso nelle cose interne della Russia, criticando naturalmente un governo che in bene o in male fa i suoi dell'Ucraina, però la contesa è sull'Ucraina, che non è Russia, è Ucraina. Lo so, però è la Russia che viene sempre messa come capro espiatorio. Ma in ogni caso voglio dire questo: l'Europa, quando tante volte l'Italia, lo Stato italiano, ha chiesto aiuto per quanto riguarda l'operazione Mare Nostrum, secondo me ha fatto un po' le orecchie da mercanti. Diciamo che usa due pesi e due misure per quanto riguarda l'intervento per i confini. Guarda più a est che a sud del mondo. Ho capito. Vabbè, lei invita a fare un paragone tra quello che succede, tra l'interesse che c'è in quella zona del mondo e dell'Europa. Sì, però va bene, sì, va bene anche questo. Sicuramente la frontiera, certo. Non è sbagliato quello che le dice da un certo punto di vista, perché in Ucraina c'è sicuramente una guerra civile, però quando ci sono le condizioni che ci sono in Nord Africa e le tragedie che accadono nel canale di Sicilia con i morti, è una guerra anche quella, quindi sicuramente ha ragione anche lei. Andiamo con chi andiamo? Andrea dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera, mi scusi, volevo intervenire sul fatto dell'occupazione. C'era quel signore di prima che parlava dell'isola ecologica, può dare lavoro a 3 falegnami o 4 falegnami. Sì. Io sono una piccola azienda, sotto i 10 dipendenti, siamo in 9. Beh, la nuova legge dice che io posso prendere una persona a tempo determinato per 4, 5, 6 mesi e basta. Io ho bisogno in questo momento di 2 persone, o lo assumo a tempo indeterminato, quindi non lo farò mai, preferisco non perdere il lavoro perché non posso avere un altro figlio, ce ne ho già 4 per esempio, che assumo un'altra persona. Quindi di quale occupazione vogliamo parlare? Questi sono pazzi, secondo me. Cioè, non ne usciamo più fuori con questa gente qua. Fare una legge di questo genere, ma chi ci viene a investire in Italia? Noi ormai siamo costretti, perché io non posso fare a meno. Dove vado? Sono italiano, ho una piccola azienda, ho i miei interessi. Si occupa lei? Noi abbiamo una piccola azienda di accumulatori per auto. In questo momento ho bisogno di lavoro, anche batterie, sì, anche 4-5 persone potrei prendere fino a dicembre. Il commercialista mi ha detto: Renzi ha fatto questa nuova legge, ne può prendere solo uno, gli altri a tempo indeterminato. Mi dica lei se è normale una cosa del genere in un paese normale, in questo periodo di crisi. Cioè, io non riesco a capire, guardi. Volevo solo dire questo. Va bene, Andrea. Okay. Grazie, buona serata. Lei ha ragione dal suo punto di vista. Ripeto, la ratio della norma è per stabilizzare il lavoro, però non è che lo possiamo stabilizzare sulle spalle di Andrea, l'imprenditore che il secondo, cioè l'undicesimo lavoratore a tempo indeterminato non lo assume, ma assumerebbe quello a tempo determinato. Questi sono ragionamenti che abbiamo fatto 1000 volte e sicuramente in quella norma lì c'è un errore, qualcosa che non funziona. Rosalba dalla provincia di Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei sottolineare una cosa, probabilmente mi ripeto un attimino, sul diritto acquisito del vitalizio del dottor Patelli. Quindi, se ho capito bene, lui ha detto: se io avessi saputo che mi avrebbero trattenuto questo contributo ad oggi, Non avrei potuto scegliere senza prendere o meno. Ma è una balla che si vede lontano un chilometro. Io volevo capire. Certo. No, perché se è così, io che faccio la commercialista, ai miei clienti domani che cosa dico? Che ogni 2x3 vengono cambiate. Ma certo, norme. Tutto cambia. L'unica cosa che non cambia è quella, forse, perché tutto cambia nella vita. E quindi di fronte ai cambiamenti bisogna prenderne atto e possono cambiare anche dei diritti acquisiti. È successo e succederà sempre. A loro non succede perché sono vitalizi, sono pubblici. Un altro livello, e non c'è un metro e una misura, nel senso che purtroppo per loro ci sono determinate norme, per noi poveri comuni mortali. Quelle norme sono solo un sogno, o da un altro punto di vista un incubo. Grazie Rosalba. Gino da Genova, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire sulla modifica costituzionale che introduce il referendum propositivo e pare che ci vogliano 150.000 firme. Praticamente saremo tutti i momenti sempre a fare referendum. Mi sembra una follia, volevo sapere cosa ne pensava anche lei. No, dunque, allora sulle 150.000 firme non ho visto esattamente, ma non credo. Ci sono aumentate le firme fino a 250.000 per la legge di iniziativa popolare, che è un'altra cosa, prima erano 50, quindi sono aumentate, per cui sarà meno probabile, ma tanto quella è una cosa che non ne frega niente a nessuno, perché portano leggi in Parlamento e poi nessuno le analizza o le vota. Altra cosa è il referendum, per cui la soglia di firme è rimasta a 500.000 euro, 500.000 euro, a quest'ora sono bollito, 500.000 firme, per un certo tipo di referendum che prevede un certo tipo di quorum. Domani ve lo dico meglio. 800.000 firme, quindi più di prima, per un altro tipo di referendum che prevede un altro tipo di quorum per essere approvato. Quindi non c'è una diminuzione del numero di firme. Poi c'è il discorso del referendum propositivo che viene introdotto, ma non credo che il numero di firme richiesto sia quello che diceva lei, o forse ho visto male io. Gino, qualcuno fra me e lei sbaglia, ma non importa, ve lo vedremo domani. Claudio da Brescia e chiudiamo, buonasera. Claudio da Brescia, eccolo. Sulla Brebemi, Sì, prego. Perché io ho una situazione particolare, ho le figlie che vivono a Brescia, io sono a Milano, quindi conosco benissimo la 4 e la Breve Mi da qualche settimana, e volevo dire che così come l'hanno fatta la Breve Mi non è un'opera utile, perché finisce praticamente nella campagna. Quindi dove? Fatta... dove? Dalla parte di Milano? Esatto, a Liscate, sì. Io l'ho fatta 3 volte negli ultimi giorni. È stato detto che non si capisce bene come arrivarci, tra l'altro. Ecco, primo trovarlo è un'impresa. Poi, poi a contare le macchine, una volta 14 macchine, una volta 12. Cioè in tutto il tratto? In tutto il tratto. Mi ha fatto un gioco con le mie figlie a contare le macchine. Certo, 13, se non la trovano 12. La strada è chiaro che poi è vuota. Assolutamente, quindi così come l'hanno fatta non ha senso. Però lei, ci dica la verità, era un po' entusiasta di questa cosa, perché lei ha le figlie da in una città, esatto, vive in un'altra, esatto. che mi immagino il mazzo che si può fare per andare su in giù. Io ormai sono 6 anni che faccio la 4 almeno 2 volte a settimana, aspettavo la Breve Mi, devo dire che così come l'hanno fatta non è un'opera utile. Però vabbè, adesso lei che ha imparato lo svincolo dov'è, com'è, quindi sì, non avrà problemi, lei almeno la utilizzi, mi raccomando, ne approfitti. Grazie Claudio, buona serata. È tutto anche per questa sera, e come sempre un ringraziamento alla redazione di Si Può Fare, Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli, Lucia Tolve e poi Fabio Cantadori in regia, come tutte le sere in questo agosto. Staremo insieme anche domani, venerdì 18, 20 e 30. Ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona serata, ciao.